È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Delle canzoni dell'estate, caro David, te la ricordi, no? Tony Troia and Company, sì. Un operaio di 28 anni, sposato, e padre di un bambino, è salito su un silos dello stabilimento di Porto Vesme e minaccia di buttarsi. Il giovane aveva un contratto interinale con Alcoa. Ma chi se ne frega? È stato rinnovato. Ma chi se ne frega? Perché devi parlare di queste cose? Rinnovato. Ma non mi interessa, è un argomento che non mi interessa. Queste qui alla zanzara, me ne frego. Sono le notizie di oggi. Ma parla un della di 28 anni, sposato e padre di un bambino, è salito su un silos dello stabilimento di Porto Vesme e minaccia di buttare. E va bene, va benissimo. Il giovane aveva un contratto interinale. Ma vai a lavorare a Radio Popolare, vai a Radio 3, vai a Radio Radicale. Perché devi dire queste cose alla zanzara? Non me ne frega assolutamente nulla. Io parlo invece della caduta di Berlusconi. Guarda un po', lo sai che Berlusconi è caduto a Villa Certosa? Si è fatto male, poverino. Mentre stava correndo. Io ho visto la foto con il poverino, la spalla lussata, cioè. Parla il fisioterapista del Milan, nonché consigliere regionale Puricelli. Sentite, nessuna distorsione o lussazione, solo contusioni. Molto importante, sì, molto importante. Allora, molto importante. È più importante mediaticamente Berlusconi che si fa male oppure questo operaio che si arrampica? No, sicuramente dimmi, questo operaio di 28 anni che dovremmo collegare in diretta, sì, per sicuro. Sentire. Senti Puricelli. La sua testimonianza. Non è successo nulla di grave, quindi assolutamente non si può parlare né di lussazione né di distorsione, è praticamente semplicemente caduto il presidente, ha parato il colpo con una mano che ha una contusione evidente ma che abbiamo assolutamente tenuto sotto controllo attraverso dei lavori di tipo manuale, di linfodrenaggio manuale, attraverso delle fasciature compressive, attraverso dei medicamenti antiedemigeni e poi c'è qualche piccola contusione ad esempio a livello della spalla. Faceva una corsa alternata a cammino ed è caduto. Gli abbiamo medicato le scoriazioni, sta bene, solo contusioni, oggi ha nuotato. Rassicura tutti il signor Puricelli, avete sentito? Parla come Berlusconi. Il grande Giorgio Puricelli, fisioterapista del Milan, nonché consigliere regionale, anche lui nel listino bloccato, tipo Minetti, ti ricordi, no? Se non sbaglio. Signor Puricelli, che mi ricorda un po', perché poi ha raccontato anche di Berlusconi e della dieta. Ti ricordi 7 kg in 7 giorni? È il film, gran meraviglioso, certo. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Prego, si accomodi. Grazie. Lei è il signor? Turri. Favorisca l'analisi, per cortesia. Perché ha deciso di perdere 7 kg in 7 giorni? Beh, sai, io sono in politica, sono assessore comunale all'alimentazione, al comune di Viterbo. All'alimentazione, capisce? Sì, quelle sono le caricature che mi fanno. Sono perseguitato, dottore, non ce la faccio più. Poi sa, adesso ci sono le elezioni politiche e io vorrei avere un look più dinamico, mi spiego. È praticamente lo stesso. Certo, non si è presentato così Berlusconi davanti a un medico. E poi ha perso 7 kg a partire dal 15 di luglio. Dunque, quant'è? Insomma, quasi 2 mesi ormai, 1 mese e mezzo. Sentiamo ancora Puricelli, che è il fisioterapista, era, non mi ricordo, del Milan, nonché consigliere regionale, eletto come la Minetti nel listino bloccato. Sentiamo. Stiamo facendo un lavoro abbinato di dieta e di attività fisica. Quanti chili ha perso? Abbiamo perso quasi 7 chili, diciamo 7 chili dal 15 di luglio ad oggi. Siamo al top, siamo al top. Siamo al top della forma, siamo al 7 kg. Tu hai mai perso 7 kg in 1 mese e mezzo? No, 7 no. Ma si possono fare anche cose più drastiche. Berlusconi, si voleva fare delle cose più drastiche, c'erano degli altri metodi. Potuto fare evidentemente delle cose naturali, no? Qualche chilo l'ho perso, comunque io ti volevo dire a te. Oddio mio, adesso riattacchi con queste storie. Che sono venuto per te qui ad Alessandria, sì, a raccontare storie. Vabbè. Storie di persone. Ma io me ne fotto. Me ne frego. Voglio fare una trasmissione radiofonica. Non voglio fare il racconto dell'Italia, delle storie. Il grande racconto popolare di un comune. Ma nessuno che te l'ha chiesto. Tecnicamente fallito. Lo sai o no? Lo so. Fallito, ma tu, scusami un attimo, ma io non ti ho chiesto mica di andare ad Alessandria. Sì, ci sei andato da solo. Per la 7, mi stai rompendo le palle a me qui alla radio. No. Sì, come no. Vai lì, fai questo grande racconto. Ma assolutamente. Ma non ti ho chiesto nulla. Senti, grida, ma un attimo solo, la grande polemica innescata, parole molto forti che stanno già suscitando grandi casini, Paolo Villaggio ieri qui alla Zanzara sulle Paralimpiadi, molto duro, uno spettacolo che fa tristezza, bisognerebbe abolirle, risentiamo. Terribile. Le Paralimpiadi, tutto considerato, fanno molta tristezza, sinceramente non è che sono entusiasmanti, ma non si dovrebbero fare, no, non si dovrebbero fare perché... sembra una specie di riconoscenza o di esaltazione della disgrazia, invece no, sinceramente non fa ridere una partita di pallacanestro con gente seduta a rotelle, è una cosa che zumba. Ce la possiamo fare alla linea. Beh, caro Villaggio, devo dirti che le Paralimpiadi invece fanno bene agli stessi atleti paralimpici, allora quelli che hanno delle disabilità, e dunque se fanno bene a loro perché si esaltano, perché trovano un senso anche alla loro esistenza, alla loro vita complicata, qual è il punto, qual è il problema? Se a te fa tristezza non te le vede, no? Giusto? È impazzito veramente. Poi parla addirittura di una cieca che corre su una curva, sentiamo. Poi c'è una addirittura, mi ha stupito, scusi, c'è una che fa i 200 metri, cioè non i 100 che va a diritta, i 200 metri con la curva di una donna, una ragazza giovane, cieca. Io l'ho visto proprio in televisione, è una che si allena con due persone a fianco, che le dicono vai avanti di diritta, comincia a girare. Lei capisce che tanto vale correre col bastone bianco, io non so. C'è uno che mi scrive sei un essere ripugnante. Addirittura questa non l'avevo mai sentita, un essere ripugnante. Beh, insomma, sì, può essere un essere ripugnante. Mi carica a pallettoni questo qua che mi dice così, mi carica a pallettoni. Allora, Berlusconi, ma non me ne frega niente, un attimo. Berlusconi dice di essere estraneo e sì, lo so, poi ne parleremo, questo è molto importante. È giusto che tu ne parli contro i nazisti che ti hanno minacciato. Estraneo ai brutali tentativi di condizionare Napolitano, dice Berlusconi in un'intervista al Foglio. Io trovo assurdo che, io non lo dico, sono in piccolo conflitto di interessi, lo ammetto, trovo assurdo che qualcuno, tipo il procuratore Ingroia, Il Fatto, eccetera, eccetera, se la prendino con Panorama. Hanno pubblicato valanghe di robe anonime, oppure passate da addetti ai lavori, e adesso se la prendono con Panorama perché pubblica estratti delle presunte intercettazioni o presunti estratti dell'intercettazione Napolitano. Ma dico, siamo impazziti. Lo stesso Ingroia che dice è Panorama che ricatta. Ma dico, un magistrato impegnato in un'indagine può dire una cosa di questo tipo? È lui che ricatta, cioè è Panorama che ricatta. E dico, la roba incredibile, Ingroia. E siccome, come dice bene, diciamo, nelle premesse, il direttore di Panorama, il ricatto è quello di chi dice, non dice, fa intendere o sventola il presunto contenuto delle intercettazioni, l'unico che ha fatto così è proprio Panorama con questo pezzo che abbiamo letto oggi, che non contiene nessun fatto, nessuna notizia. Tornare a stampare questo Monti ci vuol far crepare, io non ci credevo, ti voglio votare. E beh, Travaglio, Panorama lancia la pietra e nasconde la mano. Parla proprio Travaglio di queste cose, eh. Ma non mi fate parlare, non voglio addentrarmi in queste storie, me ne importa anche relativamente. Non mi fate parlare. Panorama lancia la pietra e nasconde la mano. Se fossi al posto di Panorama e avessi delle fonti che ritengo certe, che mi dicono quello che c'è in quelle telefonate, io avrei fatto esattamente la stessa cosa che ha fatto Panorama, con una sola differenza, che non avrei attribuito ad altri le mie fonti. Invece Panorama lancia la pietra e nasconde la mano. Silvio, tu devi tornare questa volta. Bene, intanto abbiamo un Renzi particolarmente grillino, eh. Intanto l'altro giorno, non so dov'era, al nord, in cui diceva una serie di cose molto grillesche, molto grilline, non so che termine usare. Bisogna dimezzare i parlamentari, mandare via quelli che non ci sono lì da 20 anni, eccetera eccetera, i dirigenti del PD, sentiamo. Vanno dimezzati i parlamentari, il numero dei parlamentari, va dimezzata l'indennità dei parlamentari, va eliminato il finanziamento pubblico ai partiti, va tolto il vitalizio ai parlamentari e ai consiglieri regionali. Se il Partito Democratico fa queste cose, il grillismo finisce domattina. Non so, può darsi. E poi un Renzi di ieri: rottamano Ridge, rottamiamo il baffino, cioè D'Alema. Beautiful è una grande esperienza morale rispetto al nostro Parlamento, perché Ron Moss, in arte Ridge, il mascellone, no? Presente, è nelle vostre case dal 1987. Senza fare nomi, D'Alema, la Turco, la Finocchiaro, era già in Parlamento, no? Dopo 25 anni hanno rottamato Ridge quest'estate. Non ve ne siete accorti forse, ma sui giornali la produzione ha rottamato Ridge, ha detto basta, non si sono trovati d'accordo. Ecco, se siamo riusciti a rottamare il mascellone, magari si rottamerà anche il baffino, ma quello che è fondamentale è essere capaci. Siamo qui 800 24 00 24, direttamente in collegamento non so da dove, credo da Forte dei Marmi. Daniela Santanchè, ben ritrovata, buonasera. Buonasera a lei e a tutti. Come sempre va Parenzo? Sobri. Che c'è? Sempre in posti sobri. Ma se uno va a Forte dei Marmi da una vita, perché devi rimproverare l'onorevole Santanchè di andare a Forte dei Marmi? Me lo spieghi? È una constatazione, non riprovo. Ti fa paura? Ti dà fastidio la ricchezza? Ti dà fastidio che uno spenda dei soldi per andare a Forte dei Marmi? Anzi, vorrei che un politico popolare come lei dice di essere, andasse dai minatori del Sulcis a portare, come dire, se non altro un segno di vicinanza. Vorrei che vorrei Parenzo, lei sta con Monti a Semmoritz, se capisce, invece io da tagliare dai i miei soldi li spendo in Italia, dice chi fa le vacanze all'estero. Cioè lei sono dice ad che Alessandria, non sono a Semmoritz. Comunque sobri vanno in vacanza a Semmoritz, mi stupisco Parenzo, lei è così sobrio che anche lei non da lì in Engadina, Semmoritz, che dietro non sono andato a Semmoritz, sono ad Alessandria, comune tecnicamente fallito con responsabilità della precedente giunta. Ecco. Ma lascia perdere adesso quello che devi fare, che io non ti ci ho mandato lavoro, io ad Alessandria, vai per lavoro, la 7, ma non me ne frega niente. Lavoro. Il punto è questo, perché cosa stai rimproverando? Non ho capito, che non vai in Sardegna? No, dico che giorno è adesso? Siamo venerdì 31 di agosto, ci sono delle persone che stanno a 300 metri. Ma perché uno dovrebbe andare lì? Che cosa ci va a fare? Almeno la politica, che non ha fatto un cazzo in tutti questi anni, almeno si faccia vedere, per dire, almeno siamo qua. Proviamo a capire. Monti è andato, Monti. Ma lei interessa di Monti, sto parlando con lei, ma Monti, io non so, Monti, allora. Ma io non sono al governo. Guarda, io nella vita faccio anche la mamma. Questo è l'ultimo weekend che mio figlio, che poi parte per Londra, che va a studiare in Inghilterra. E quindi sono orgogliosa di fare la madre, di essere arrivata qua e di stare 2 giorni con mio figlio. È un valore che capisco e lei non può comprendere. Scusi un attimo, ma io voglio capire una cosa. Perché lei dice Monti, mentre Monti va a Semmoritz, io spendo i soldi in Italia? Perché a me mi fa girare abbastanza le balle che il Presidente del Consiglio sia in vacanza in Engadina, su Moritz. Quest'anno, con la crisi che c'è, ritengo giusto spendere soldi in Italia e attivare la catena dei consumi. Io ho fatto una campagna. Ma quello va da una vita, va da una vita in Engadina. Non aveva mai fatto il Presidente del Consiglio, adesso fa il Presidente del Consiglio, il nostro paese è in crisi, capisco che prende ordine solo dalla Merkel, però era bene che stesse a Milano, a Varigotti, a Forte dei Marmi. Però scusi, non è che adesso dobbiamo chiudere le frontiere, i politici dovrebbero fare vacanze solo in Italia, barrichiamo tutti dentro l'Italia per spendere in Italia, è una cosa assurda. Ma il Presidente del Consiglio è un bell'esempio, si fosse fatto vedere in qualche località nostra, abbiamo perso il 40% del turismo, l'anno scorso abbiamo fatto il record di turisti, 170 milioni, quest'anno siamo a meno 40%, mi sembra un bel segnale, ma capisco. Comunque, che è solo una mia idea. È caro anche là uno stabilimento a Forte dei Marmi, onorevole Santanchè, carissimo dalle cose, una cosa pazzesca, io ho letto dei prezzi incredibili. Parenzo, tu sei mai andato a Forte dei Marmi, in qualche stabilimento di questi qua, diciamo? Sono andato una volta. Spiaggia libera a Forte dei Marmi? Come, no, scusi? No. Cioè, lei non va alla spiaggia libera però, Ma guardi, io corro in pinetta, io non sto molto alla spiaggia. Vabbè, corre, certo. Non amo prendere il sole. Vabbè, ma avrà lì una sdraietta, un ombrelloncino? Ma no, va allo stabilimento da Piero. Ma io sono in ho 120 dipendenti, capisce? Quindi quando vengo qua cerco di aumentare il prodotto interno lordo, visto che abbiamo 100 dipendenti, abbiamo uno stabilimento e una discoteca, facciamo impresa nel turismo, cosa molto. Però andando a ragionare su una cosa, su quello che diceva prima sulle vacanze di Monti, Hollande effettivamente, caro Parenzo, ha chiesto ai ministri di fare vacanze in Francia, no? E i suoi lo hanno fatto. Però io sono contrario a queste cose, ognuno fa le vacanze dove gli pare, non è inutile stare a discutere tanto. Quello va in Engadina, da una vita vicino all'Italia, sì, avrà speso non so quanto. Io rispondevo a Parenzo che si preoccupava che io fosse a forza di marmi, era per questo che il mio sguardo era più in basso, perché dovevo abbassarmi all'altezza di Parenzo. Scusi, però per me può stare a forza di marmi anche fino al giugno prossimo, non è quello il punto. Anzi, no, tu vorresti. No, ma perché voglio anche bene, figurati, è una signora simpatica, è brava, è divertente, figurati, perché non mi interessa, può stare dove intelligente vuole. Intelligente no? Può stare anche a Chioggia, può stare a... Era a Venezia ieri, guardi, ieri era a Venezia. L'abbiamo vista, bellissima, va tutto bene. Ma che cos'è che ti dà fastidio? Il glamour, ti dà fastidio? Oddio, ti dà fastidio che uno spenda dei soldi, che uno è ricco? Cos'è che ti dà fastidio? No, benissimo che spenda, perché siccome ne ha tanti è giusto che li spenda, e quindi arriva a finire l'economia. Che mio padre mi ha insegnato che si nasconde solo quello che si ruba. Non rubando non ha niente da nascondere. Però scusi, è meglio andare a Forte dei Marmi che andare in Sardegna, allora. Meglio stare a Forte dei Marmi perché si spende che andare inutilmente in Sardegna dai minatori. No, guardi, dai minatori è un problema molto. Vabbè, molto però serio. Lei non ci va, meglio stare a Forte dei Marmi. Ma io non faccio parte del governo, credo che il governo debba risolvere i problemi. Ci vada Monti, ci vadano i ministri competenti. Noi non siamo al governo in questo momento e quindi non abbiamo lì. Per poter decidere. Vabbè, uno ci può andare anche però così per solidarietà, dice Parenzo, no? Ah, questo. Sì, certo, per solidarietà. Però lei non ci va. Con la solidarietà non si mangia, non si risolvono i problemi. Io sono d'accordo su questo. C'è molta ipocrisia in questo momento nel nostro paese. Di capire a me piacerebbe andare lì e risolvere il problema, non potendolo fare. Avete soluzioni voi? Qualcuno dice sul giornale, qualcuno sostiene per esempio che chiudere quella fabbrica sarebbe quell'impianto, diciamo, quel sito sarebbe meglio per l'economia, che mantenerlo in piedi sarebbe prolungare l'agonia, eccetera, eccetera. Lei è d'accordo? Ma guarda, io sono d'accordo che in Italia bisogna fare di tutto per salvare i posti di lavoro, abbiamo visto gli ultimi dati sulla disoccupazione. E quindi fare tutto quello che aumenta i posti di lavoro, non che ne diminuisca. Purtroppo questo governo ha fatto una riforma del mercato del lavoro che toglie tutta la flessibilità in entrate, glielo dico da imprenditore. Ma adesso questo col Sulcis non c'entra. No, ma in generale dico oggi è più difficile di ieri poter assumere, questo mi dispiace molto, anche perché in questo paese si ha la visione che gli imprenditori sono imprenditori, non capiscono che invece il successo di un imprenditore è assumere, non licenziare. Senti Parenzo, ma l'hai vista le foto a Venezia di Daniela Santanchè insieme a Sallusti? Viste, bellissime. Parenzo, l'hai vista? Sì. Certo che l'ho vista, bellissime, l'ho anche messa come save screen del mio iPad. Vabbè, adesso non esagerare, come al solito. Sì, save screen. Mi mette allegria, mi piace, quando c'è l'amore io sono felice, sono contento, bellissimo. Ah sì, è cambiato moltissimo nelle ultime settimane, Parenzo. No, negli ultimi mesi. Una storia d'amore meravigliosa. Cosa ha fatto? Glielo racconto io cosa ha fatto una volta. Stai zitto. Che cosa avrà fatto quest'estate Parenzo? A saperlo. Non esiste molto questa cosa del furetto. Prima o poi si verrà a sapere. Lo fai tu. Si sa tutto in questo paese, sarà stato anche lui intercettato. Non frega niente a nessuno di quello che faccio io. Interessa di più una bellissima foto del direttore del giornale. Perché secondo me la vera direttore del giornale era Santanchè. Cioè quei titoli sono frutto. La dica tutto, però, Daniela Santanchè, lo dico tutto. Io sono il vero direttore del giornale, sono io. Quello che decide tutto sono io. Vabbè, così la facciamo finita. Una dichiarazione di onestà, di trasparenza. Esatto. Mi dispiace molto che voi uomini non capite le situazioni. Mi dispiace anche perché credo che al direttore Sallusti si possa dire di tutto, ma non che sia un uomo non capace o intelligente. No, anzi, usando queste parole. Com'è? Molto intelligente, signor Sallusti? Secondo lei? Secondo me è un uomo sicuramente capace e intelligente. Molto. Questo, senza ombra di dubbio. Affascinante? Beh, certo. E che ne so, una domanda. Il cervello affascina sempre. Però insomma, le cose cerebrali sono meglio di quelle fisiche. Sempre, eh? sempre. Beh, parte tutto dalla testa. Parte tutto dalla sicuramente testa. Sicuramente non dai piedi, Parenzo. C'ha questa, c'ha, ha, questa, ha questo volto sempre, no? Qualcuno lo assomiglia, un po' da teschio così. Ha sempre questa, no? Questa aria un po'. No? No? No, no, no. No, dico, ha questo volto un po' da... Com'è che dicono? Parenzo, dillo tu che sei più... No, io sto vedendo... Ma io non ascolto quello che dicono. No, cioè, mi interessa molto poco del giudizio degli altri. Vedere il grande Sandro, così bello abbronzato, questo smoking meraviglioso... Ma è sempre bianco, che abbronzato. Mi dà, quando c'è amore, io sono felice. Vabbè, ma io sono... Ma lo sa che Berlusconi è inciampato? Si è fatto male? Beh sì, infatti, no, non gli ho parlato oggi, però l'ho letto, mi dispiace molto se così è. Però pare anche non perché l'avevo sentito ieri, era veramente in ottima forma, sì, aveva carico. Grande entusiasmo, sì, assolutamente. Ma questo trovato... Grande Italia, sarà Grande Italia o si chiamerà in un altro modo? Ma guarda, questo ancora non lo so, ancora... sicuramente non si chiamerà PDL, sicuramente qualcosa bisogna cambiare. Ma vincere. Il suo nome preferito qual è? Ma guarda, Grande Italia non mi dispiace. Grande Italia. Grande Italia, sembra un supermercato, Grande Italia, cioè, sembra i grandi magazzini, o no? Beh, ma guarda che bisogna passare dalla boutique alla grande distribuzione, quindi sarebbe in linea perfetta. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte. Siamo qui 800 24 00 24, la zanzara con David Parenzo, in collegamento da Alessandria, dove è andato per i fatti suoi, non capisco, in un comune per fallito. Per raccontare, nessuno te l'ha chiesto. Daniela Santanchè, collegamento da Forte dei Marmi. Comune fallito. Ieri sera Daniela Santanchè, comune zero. Fallito, benissimo, per responsabilità di chi l'ha amministrato. Daniela Santanchè ieri sera ha detto addirittura che il Napolitano dovrebbe ridare il mandato a Berlusconi, cose di fantapolitiche irrealizzabili, naturalmente, se ne rende conto, no? Ma com'è irrealizzabile? Ma scusi, se tutto quello che abbiamo letto è vero, io dico, se è vero, il Napolitano non sia più un arbitro con una maglia ben distinta. Cioè, non ho capito, se è vero cosa? Scusi che sento male. Se è vero, se è vero quello che abbiamo letto, no? Su Panorama, sì. Quello che avrebbe detto di Berlusconi, di Pietro, di alcuni magistrati, abbiamo capito che Napolitano non è l'arbitro, è il giocatore e quindi che ha preso parte a una partita come giocatore. Sì. A questo punto, visto che è stata sospesa la democrazia con il governo Monti, dovrebbe richiamare Berlusconi al collo e dargli il mandato e mandarlo alle Camere a vedere se ha la maggioranza. Vabbè, ma non succederà mai, evidente, no? Ma a parte che sono indiscrezioni, oggi Berlusconi ha difeso anche Napolitano dicendo che gli attacchi non arrivano da Mondadori, arrivano da altri, eccetera eccetera, per la vicenda di Panorama, che ha un rapporto molto stretto col Presidente della Repubblica, eccetera eccetera. Lei addirittura... Lei a questo ha detto Berlusconi, io non sono Berlusconi e quindi io dico quello che penso. Chi di spada colpisce, di spada perisce. La sinistra in tutti questi anni, quando una parte, grazie a Dio, della magistratura aveva dei comportamenti molto aggressivi quando faceva delle cose che non si dovrebbero fare nel rispetto della legge, strizzava l'occhio, quando in questo paese 20 anni che massacrano il Presidente del Consiglio, i grandi giornaloni, i grandi giornalisti, nessuno diceva niente. Adesso lo scandalo, ma per me lo scandalo è questa ipocrisia che c'è nel paese. Su questo, che ci sia ipocrisia, criticare Napolitano, si può criticare il Santo Padre, e cosa sono? Tutti i comunisti che adesso mi mandano in esilio perché io mi permetto di criticare Napolitano, e mi mandassero in Siberia se quella è ancora la mentalità e lì sono rimasti. Pazienza. Scusi un attimo, ma che noia. Perché che noia, scusa? Che noia, argomenti triti, e la sinistra, i giornali della sinistra, e la sinistra. Allora, è d'accordo o no con la pubblicazione? Nel merito, non... No, secondo lei queste conversazioni dovrebbero essere rese note, perché qualcuno chiede... Ma io me ne fotto di queste conversazioni. Ma no, lei dice fotto. Se fossero vere... Non me ne fotto il fatto. detto che in questo paese, nel mio paese, ci sono due pesi e due misure. Se intercettano il Presidente del Consiglio, non è uno scandalo, non si fa cadere un governo. Se si intercetta il Presidente della Repubblica, viene giù un pandemonio. Ma perché? Ma che cosa ha di divino il Presidente della Repubblica? È un uomo come gli altri, fa delle cazzate come gli altri. E quante ne fa? Non lo so, io non lo so, non sono un giudice, non sono un giustizialista. No, però lei dice, vorrei se fossero nel paese vere... ci fosse una legge, però, che scusi, evita l'abuso delle intercettazioni. Però se lei dice vero, perché cos'è, un arbitro napolitano? Se fossero vere le parole che ha usato nei confronti di Berlusconi, dice lei, le parole che fare un arbitro? Beh, ma sono parole che si usano in conversazioni private, uno può dire quello che vuole e mi stupisce che lei voglia. Quando hanno detto, hanno scritto tutti i giornali che Berlusconi diceva Merkel culona, sì, dove poi non c'è stata traccia di intercettazioni, non c'è stato niente, però tutti i grandi giornali d'Italia hanno dato per assodato che Berlusconi avesse detto Merkel culona. Beh, anche il giornale, devo dire, ha fatto i titoli. Sì, ma non è che devo dire, io non è che il giornale, ma che cosa mi importa il giornale? No, ma per dire, giornale, cioè... io sono a Sant'Angelo. No, no, ma è era un inciso, però glielo faccio notare. No, non è un inciso del cavolo. Le faccio notare che anche il giornale con cui lei ha dei rapporti, con cui lei ha dei rapporti. Ma c'entra meglio dei rapporti anche con lei, amicali, ma tante volte non sono d'accordo su quello che lei dice. No, ma certo, ma infatti non le sto dicendo niente, non le sto dicendo che lei deve essere d'accordo per forza. Ma no, ma certo, fatti tutti con la stampina, grazie a Dio. Ma no, ma no, ma ho capito, ma per carità, va benissimo. Detto questo, io dico altro. Dov'è il problema? No, ma non c'è nessun io problema. Io le dico che per me, Napolitano, come Presidente della Repubblica, che deve essere l'arbitro, soprattutto deve essere garante della nostra Carta Costituzionale, che dice che il popolo è sovrano. Si ha detto quelle cose? Si ha detto quelle cose, gliel'ho già detto cosa dovrebbe fare. Dovrebbe. Certo, perché siccome Berlusconi... Dunque bisognerebbe che chiarisse se ha detto quelle cose o no, lo dicesse, cioè rendesse chiare... No, a me non mi interessa, ho capito, non sono appassionata, non sono una che esista a guardare dietro il buco della serratura, grazie a Dio, non mi appassiona, non sono una di quelle che ama guardare. Dico, dovrebbe chiamare Berlusconi e dire, questo è il mandato, vada alle carte a vedere se... appunto da... Vabbè, ma questo è chiaramente impossibile, nel senso che c'è un governo in carica, eccetera. No. Aspetti che non sento più niente. Non si sente niente. 800 24 00 24, richiamiamo, onorevole Santanchè, forte di amare, mi sembra Kathmandu stasera, ma che è? Cioè, dove sei messo in Pineta? Santanchè adesso, perché... Sì, un attimo, fammi sentire Valerio dalla provincia di Brescia. Ma no, c'è stato Valerio che poi insulta. Valerio? Sì, buonasera. Dica, buonasera, dica. Signor Cruciani. Dica. E un abbraccio anche a Parenzo. Sì. Comunque, lei sottovaluta molto il lavoro di Parenzo, Le sue inchieste hanno cambiato il modo di fare il giornalismo. Ah, beh, quello sicuro. È vero. Allora, no? Valerio? Niente, la chiamavo semplicemente per fare un appello agli ascoltatori della Zanzara. Qual è l'appello? Diciamo, la parte degli ascoltatori che chiamano per dire che non piace la Zanzara. Sì. Niente, di fare a meno di chiamare, cioè di cambiare stazione radio. No, ma che, perché? Ma lei è matto, devono chiamare di continuo per esprimere tutto il loro dissenso. No, perché io principalmente l'ascolto in podcast, quindi non posso replicare, e lei dà meno spazio a chi, diciamo, è a favore della Zanzara, ma quindi non noi bisogna... siamo la maggioranza. Ho capito, certo che siete la maggioranza, mi pare evidente, una maggioranza silenziosa. È tornata a tenere la Santanchè. Quindi invito gli ascoltatori ad essere anche loro una maggioranza silenziosa, quando io ho iniziato ad ascoltarla, sinceramente mi stava molto sulle palle, però... Guardi che col tempo diventa anche simpatico, guardi. Ma guardi Valerio, la marcia dei 40.000, questo potrebbe organizzi fare. La marcia dei 40.000 a favore della Zanzara, come la marcia silenziosa. La marcia silenziosa. E riceviamo molti attacchi per la vicenda di Grillo dei 10 milioni di lire di Guerisoli, più tardi chiariremo tutti. Non capisco perché attaccano noi, perché nei confronti di Grillo c'è una sorta di idolatria, qualsiasi cosa venga detta, vera o falsa che sia, nei confronti di Grillo, mentre Grillo ne dice di tutti i colori nei confronti di tutti, viene giudicato come un attacco al re, un attacco a Dio, un attacco al Papa. È una cosa pazzesca questa cosa qua, una cosa pazzesca. Senta, onorevole Santanchè, lei voterebbe mai per il Partito di Fede, il nuovo Partito di Fede, Vogliamo Vivere? Chiede a me? Voterebbe mai per il Partito di Fede, Vogliamo Vivere? Ah, guardi, Io ci posso per tutto, per tutti. Se qualcuno voterà il partito Vogliamo Vivere, ho rispetto di quegli elettori. Beh, adesso non la metta così. Fede ha detto, tra l'altro, che non si può lasciare il PDL alla Santanchè, il voto femminile non può. Perché ce l'ha tanto con lei? Un'altra cosa ha detto su di lei oggi in un'intervista all'Inchiesta: anche la Santanchè e tutti quelli che si mettono in una posizione che non si meritano, che non spetta a loro, non si può accettare. Perché ce l'ha tanto con lei il signor Fede? Io non ce l'ho niente con lui, bisognerebbe chiedergli la fede. Beh, dopo glielo chiederemo, ma come mai? Lei ha qualche notizia, qualche cosa? Perché ce l'ha tanto con lei? Boh, non lo so. No, onestamente non lo so, ma non è che mi preoccupo no. molto. No, beh, quello immagino che lei non si preoccupa. Anche perché, insomma, è una persona diversa da me, quindi non è che... E in che cos'è diverso? No, ma voglio dire, non mi preoccupa, non mi interessa, gli faccio tanti auguri, in democrazia c'è posto per tutti e speriamo che prenda tanti voti. Come mia diplomatica. Largo e giovani. No, largo e giovani. Largo e giovani non mi pare, c'ho 82 anni quasi. È giovane di spirito. Ha visto, signora Santanchè, che al Lido, oltre alla coppia Sallusti-Santanchè, sì, c'era anche il signor Ingroia? Ma dove? Venezia, sì. Venezia. Lido di Venezia. Che ne pensa lei di Ingroia? Non vi siete incontrati? No, guardi, io non l'ho incontrato, non mi farebbe nemmeno particolare piacere incontrarlo. Trovo perché? Una persona, no, perché trovo una persona che nello svolgimento delle sue funzioni è stato troppo di parte, ha svolto. Ma mica è un criminale? Assolutamente no, mi permetterei di dire questo. Cioè, però è meglio che vada via dalla magistratura, secondo lei, o no? È meglio che si smetta con questa ipocrisia? Non lo so, secondo me si candiderà in politica, sicuramente già pronto, come hanno fatto tanti altri suoi colleghi. Ne abbiamo una schizza lunghissima. Quando capiscono che in magistratura non c'è più spazio, anche a destra, in politica, hanno fatto tanti favori alla sinistra, un posto, un collegio in Parlamento glielo danno. Comunque, guardi, a parte che anche a destra ci sono un sacco di magistrati, magari meno esposti degli altri, però comunque si sono candidati. Se io voglio capire una cosa, Santanchè, se lo fosse trovato in sala, la prima, vicino, no? Beh, immagini che roba, la prima fila, Santanchè, Sallusti e Ingroia, cosa avrebbe fatto? Sarebbe alzata e sarebbe andata via? Ma no, la mano avrebbe stretto. Ma figuriamoci. Non lo conosco, stavo lì al mio posto, lui stava al suo. Ma gli avrebbe stretto la mano? Ma sì, cioè. Ma stretto la mano no, perché io non sono solita salutare chi non conosco. Vabbè, ma vabbè, vabbè. Comunque, guardi, voglio fare un'ultima domanda. Non è che voglio saluto chiunque. No, non conosco, so chi è. Ma lei è Ingroia, chi se ne fotte? Lui è Ingroia, io sono Santanchè. Se mai si alzava in stente, salutava me. Ma non è proprio un educato. Non è un atteggiamento quasi da eversore, secondo lei, Ingroia? Interviste, da eversore, non è un atteggiamento quasi eversivo, secondo lei, Ingroia? Ma sai che io non me ne occupo molto di Ingroia, non suscita nessun interesse. Questa cosa della trattativa Stato Mafia, due palle pazzesche, no? Una noia. Ma no, ma voglio dire, chi sta lì che impicci, guardi, sono 20 anni che ne dicono di ogni, di Berlusconi, sti magistrati, e insomma confondono la verità con le fantasie che loro vorrebbero, per cui voglio dire, non mi appassiona questa cosa qua. Senta, mi appassiona altre cose. Un'ultima cosa, ma Renzi, non le piacerebbe come... a destra, cioè nel centrodestra, signor Renzi, il sindaco di Firenze? Mi piacerebbe se Piazza Pulita dalla sua parte, sarebbe onore al merito. Se riesce a far fuori tutti qua che stanno lì da 30 anni in Parlamento, non hanno mai lavorato un'ora, però applaudirei, perché io veramente vorrò fare una battaglia, perché sono stufa di avere gente in Parlamento mantenuta della politica, che non ha mai lavorato un'ora e che vede la politica non come servizio ma come stipendio. Anche nel PDL, prossimo... Anche nel PDL. Certo, nel prossimo Parlamento ognuno deve avere un reddito, che faccia l'operaio, che faccia l'insegnante, che faccia l'artigiano. Beh, anche nel PDL ce ne sono da far fuori da questo punto di vista. Ce ne sono da tutte le parti, che vedono la politica come uno stipendificio. Questi strombati si fanno mettere da qualche parte. Ma chi c'è nel PDL? Chi c'è il modello americano. Chi c'è nel PDL che bisognerebbe far fuori, che fanno solo politica? Io parlo di principi. Principi. Però farò una battaglia per questo, perché vorrei vedere un Parlamento operoso, di gente che non è che sale lì e poi da sette per il paese, non ha lavorato un'ora della vita, non sa cosa è pagare un mutuo, non sa cosa vuol dire i mutui dire li pagano avere... magari, però con le... No, ma a me è mutuo. Con lo stipendio da parlamentare, certo. Però capisce, io sono contraria. Io Senta, vorrei ma dunque Renzi, che la politica faccia come servizio. Lei fa il tifo per concludere per Renzi che vinca contro Bersani, mi sembra di capire, no? Così fa un fuori. Assolutamente sì, non se ne può più di sti ciaparazze. Che so, ciaparazze? Sì. Dunque, forza Renzi, si può dire. Forza Renzi, fai fuori tutti e rinnova la sinistra. Come si può dire? Lo dica, forza Renzi. Ma certo, ma io sono contenta che vinca. Ma guarda, a me Renzi non lo trovo neanche un mostro di capacità, onestamente. Però... mi sembra anche molto, insomma, molto fumo, non tanto arrosto. Però... se Renzi è capace con la sua campagna per queste primarie di questa gente che da 30 anni che sta in Parlamento, che è triste, che è noiosa, che non ha mai lavorato e che pensa ancora a una politica vecchia. Pure Renzi non è che abbia lavorato in vita sua tantissimo. Vado, gli stringo la mano, lo bacio e dico with my compliments. Ah, ok, se vince Renzi va là, stringe la mano e pure un bel bacio, in bocca no, eh. Ma io dico, ma Cruciani, lo so. Ma gli ho sempre detto come la penso sul sesso e sull'amore, adesso lei mi cade. Come la pensa? Ma Crocetta che vuole rinunciare al sesso? L'ha letta, sarebbe una grande cazzata. Beh, sì. Cioè. No? Beh, direi di sì. Vede cosa si fa per avere un posto? Che tristezza, rinunciare al sesso, all'amore per avere una poltrona. Ma non so nemmeno se sia così popolare dirlo, tra l'altro. Cioè, non capisco questo. Ma io trovo che, guardi, siamo qua in un paese di falsi, di ipocriti, di bigotti, che veramente fa venire la nausea. Non magari il vomito, di più, il vomito. Se vinco lo vorrei bacio. Trasparenza, chiarezza, questo che pur di fare presidente della Regione Sicilia rinuncia al sesso. Ma rinuncia alla poltrona. E faccia un po' più di sesso con chi gli pare, che sarebbe meglio. Anche sesso omosex, perché no? Senza pagare il sesso, però. No, beh, quello mai. Quello io mai. Non so se paga o non paga. No, speriamo di no. Come paga? Perché dovrebbe... il sesso con l'amore, perché il sesso. Perché dovrebbe pagare il signor Crocetta? Scusi. Ma che ne lo so io. Appunto. Lo so, dicevo per dire, ma come lei sottolinea tu oggi, Cruciani, come mai è così? Come sono? Sono tranquillissimo. No, no, è sempre fantastico. Poi vicino a Parenzo fa un fuoco. Adesso no, mi aspettavo un'altra cosa. Cosa si mangia stasera di buono? Cosa si mangia stasera di buono? I ravioli al tartufo? Ma perché? Sì, sto andando a casa a cucinare le lasagne al forno. Mi ha proprio beccato. Ma così si ingrassa, lasagne al forno. Si ingrassa il signor Sallusti in questo modo? Ah, no, non... ma le faccio fare mio figlio Lorenzo, ho 16 anni, poi parte a studiare a Londra, capite il mio dolore, il mio tormento, penso al mio bambino. No, questo qua si deve rispettare sempre. Traffico, grazie, un abbraccio, a presto. Lasagne pure grazie. Per noi, pure per noi sì, ogni tanto. Sì, quando volete vi invito, tutti volete. Direttori, tanti direttori, ogni... direttorini, direttoroni, tutti insieme, appassionatamente. Eccoci qui, 18:49, dopo le lasagne della Sant'Anchè, qui alla Zanzara. Parenzo è sempre impelagato nei suoi pensieri, non so su che cosa, sugli operai, su Alessandria. Chi hai là? Una persona del popolo? In questo momento mi sono ritirato nelle mie stanze per preparare i dossier. Per sì, i dossier, nelle stanze di chi? La storia di questa città. Quindi sono venuto qui in albergo, mi sono fatto un attimo la barba. Sì. Ho tirato la città tutto il giorno per raccontare e parlare con le persone e per capire qual è la situazione. Ma nessuno te l'ha chiesto. Alberto zitto, da Milano. Fammi sentire tra Alberto poco, da Milano. Andrò e ti passerò il persone del comune. Sì, ma non lo voglio fare, non me ne frega niente. Vita, ma non mi interessano le storie di vita raccontate. E questa è la mia protesta non violenta nei confronti della trasmissione. Ma quale protesta non violenta? Che dici? Sì, Alberto da Milano, su, Alberto. Buonasera Cruciani, complimenti. Buonasera, buonasera. Io volevo consigliare a Villaggio, l'ho sentita ieri sera, la prima volta che chiamo, sì. Sono un po' emozionato, di guardarsi le Paralimpiadi, perché dietro quel minimo sforzo della gara c'è tanto sacrificio dietro. Io ho un carissimo amico che l'anno scorso ha visto la medaglia d'oro nel ciclismo e posso assicurargli che c'è il doppio del sacrificio degli atleti normali. E quindi no, Alberto, sono d'accordo con lei. Dopodiché poi Villaggio è Villaggio, Sì, sì, chiaramente. Ma siccome ieri con una battuta le ha detto anche che voleva i 30.000 euro per l'intervista. Vabbè, ma quella è una battuta. Lo so, però visto che ne ha tanti dovrebbe passare un po' di tempo con quelli che fanno questi allenamenti eccetera, capire cosa c'è dietro, i sacrifici della però famiglia. È legittimo che uno di fronte a uno spettacolo esprima la sua idea che ha verso quello spettacolo. Questo ha fatto giusto, Villaggio, giusto, nient'altro. Dopodiché è chiaro che quando dice aboliamole quello è un altro discorso. Nico da Salerno. Sì, sì, anche perché? No. Anche perché diceva Alberto? Anche perché diciamo che questo ad esempio amico e anche un altro non sono in queste condizioni per loro volontà, ma ad esempio nel caso di questi miei due amici per incidente stradale, quindi tutta grazia ricevuta. Certo. Nico da Salerno, buonasera. Buonasera. Vada. Salve, allora io volevo invitare tutti voi a far chiamare, a intervistare tutti i giovani al grande maestro Paolo Villaggio. Addirittura. È l'unico grande intellettuale e poeta che ci è rimasto in Italia, è l'unico che gli è rimasta l'ispirazione nonostante l'età. E invece tu hai appena perso, ha perso un'ora della tua vita a parlare con la Santa Anche. Che tragedia. Tu ti vuoi male, ti vuoi veramente male. Quanto spendi in banane ogni mese? Perché tu intervisti le scimmie, Berlusconi, la Santa Anche. Le banane spendo molto perché i macachi. No, i banane spendo molto perché correndo ho bisogno di banane, cioè di potassio. Ah, il potassio, sì, sì, ma chiamate una ragazzina, chiamatela Tommasi, fatele ripetere quella frase, gada come una parca, quella è poesia. Non continuo perché poi dice una parolaccia, parli con una santa Anche, ti prego, chiama Villaggio, fallo parlare, fallo sfogare. Perché è l'unico ispirato, neanche più Benigni, abbiamo perso a Benigni, non è ispirato più, va là, si piglia i soldi, dice quattro e se ne va. Che tristezza, parli di Napolitano, tutti questi piduisti, tutta sta gente, mamma mia, tutti piduisti, Napolitano, adesso questo sono mi sembra... Sono tutti uguali. Grillo che è un dittatorucolo fallito, che gli piacerebbe che lui dice una cosa e gli altri obbediscono. Prima mi facevi ridere, ma nemmeno quello più... Ha perso l'ispirazione pure lui, ti prego, puntate sul Villaggio perché, noi che possiamo chiamare ogni giorno Villaggio, quello ci chiede un sacco di soldi. Ma nemmeno una volta tanto così. Pure perché è vecchiarello, ti perdono, è una cosa egoistica mia, tanti a voi ascolto lo stesso perché ormai ho l'abitudine, sono dipendente. Però Nico, scusi un attimo, fosse possibile, Nico, le pare che io non lo chiamerei ogni giorno. Fosse possibile, 10 minuti di Villaggio al giorno, alla grandissima. Però bisogna essere in due. Si risolve la vita, ha detto delle cose fondamentali ieri. Siamo 7 miliardi e nel 2 fra 20 anni saremo 15. Dobbiamo pensare alla felicità dei nostri giovani. Pensiamo alle ragazzine giovani, pensiamo alle ragazzine belle, da queste parti dice buone. E tu pensi alla Santa Anche, Dio mio. Però anche la Santa Anche ha dato, ti prego. Poi quando stai in microfono ne parli come me, ne sono sicuro perché sei in gamba, dai, servi di Parenzo come scemo del Villaggio che c'ha la libertà di dire qualunque cosa. Vabbè, quello è cretino, giustamente. Quindi lo usi come Parenzo. Sei come il Presidente della Repubblica, sei come si dice responsabile, perché tanto le cose più credibili le dice Parenzo, però le dice. Sì, lei che è una persona che ha studiato, sa. Io sono più cretino di te, Parenzo, che si sappia, Stai zitto, Shakespeare attribuiva nelle sue commedie al folle, al matto, all'apparente matto, gli faceva dire le cose più vere. Bravissimo, allora, siccome lei io invece strategicamente un cretino, perché su questo non c'è ombra di dubbio, mi pare. Ma l'ha anche detto. Cavolo! Ma non ho capito, ti sei irritato, Parenzo, perché... No, Parenzo, io ti ho sgamato quando andassi da Chiambretti, che facessi una figuraccia con quell'economista là, dicessi dove è la crisi, i ristoranti sono pieni di gente, dissi che bello, finalmente un cretino che non si vergogna di esserlo, un folle, un pazzo, dai, lo scemo del Villaggio, che ne sai che tante volte San Francesco piacere, era un Parenzo, pazzo, perché ti presenti? Tante non era un pazzo, sai? Piacere, Parenzo, lei si chiama lo scemo del Villaggio? Piacere, Parenzo. Va bene, grazie Nico, lei è numero grazie uno. Grazie a voi, italiano... investite sul Villaggio e sulle belle donne, che oggi ho letto pure una notizia che ti riguarda, complimenti se è vera. Ottaviano da Rieti. Ottaviano da Rieti. Quale notizia, amico mio? No, tienilo in linea, quale notizia ha letto? Non dica stronzate, Nico, non interessa a nessuno. Ottaviano... A nessuno? Ottaviano da Rieti. Ora ci penso io, amico mio. Ottaviano da Rieti. Io volevo spostare il discorso di Villaggio su di voi, nel senso che avete dimostrato di essere un po' viscidini oggi, perché ieri l'avete trascinato. Ma guardi che questa è la nostra tecnica. Lo so, però oggi avete fatto una specie di passo cosa? Indietro. Ma che passo indietro? Ma anche qualcuno ce l'ha detto. Detto. A me non mi dice niente nessuno, avanti. Guardi, non si preoccupi. Io dico quello che mi pare, non si preoccupi, caro Ottaviano, non c'è nessuno che mi dice devi dire questo. Del politicamente scorretto e oggi... No, io non... questo lampo di... Di che cosa? Io ho detto in maniera... Non ho affatto... Ma ieri l'avete trascinato, Villaggio. Ma questo è quello che facciamo noi di solito. Ma l'abbiamo trascinato a parlare di questa cosa. Ma no, ma che c'è? Io mi tiro indietro rispetto dai, a che? Qualcuno ve l'ha detto che era andato un po'. Senta, Ottaviano, io non mi sto affatto tirando indietro. L'ho appena detto. Villaggio, se ha visto certe cose che gli hanno dato fastidio, ha fatto benissimo a dire quelle cose. Dopodiché a me non mi danno fastidio le Paralimpiadi. Io potete dire, no? Ma l'ho anche detto. Che ne sa lei? Ma che, sa, che ha seguito due ore e mezza la trasmissione? Ha seguito due ore e mezza la trasmissione? L'ho seguita tutta. Quando c'era Villaggio l'ho seguita tutta. Ah, ecco, no, dopo no. Vabbè, dopo. Ottaviano, la ringrazio. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Quando il giorno scivola via si svegliano per me. Quando tutto sembra poesia, la cruda verità, le zanzare di casa mia. La frase di Paolo Villaggio che sta facendo discutere. Le Paralimpiadi fanno tristezza, aboliamole. Le Paralimpiadi, tutto considerato, fanno molta tristezza. Sinceramente non è che sono entusiasmanti, ma non si dovrebbero fare, no, non si dovrebbero fare perché... Sembra una specie di riconoscenza o di esaltazione della disgrazia, invece no, sinceramente non fa ridere una partita di pallacanestro con gente seduta a rotelle, ecco, è una cosa che insomma. Passioni e vanità. Intanto Berlusconi ha perso 7 kg dal 15 luglio, il suo fisioterapista, che è poi quello del Milan, ed è anche consigliere regionale, Pulicelli. Sta facendo un lavoro abbinato di dieta e di attività fisica. Quanti chili ha perso? Abbiamo perso quasi 7 chili. Diciamo 7 chili dal 15 di luglio ad oggi. Poi oggi è pure caduto, nulla di grave. Per chi è preoccupato. Renzi dice tornerei a cena da Berlusconi. Renzi dice anche via lì chi è da 20 anni. Rottamano Riggio, rottamiamo anche il baffino. E Ingroia parla sempre della solita storia. Il magistrato Ingroia: al momento escludo la politica, ma non si sa mai. Se lei fa domande in termini così assoluti, nessuno le potrà dire escludo per il resto della diciamo mia vita. Allora le circoscriviamo nel prossimo anno. È escluso in questo momento qualsiasi mio impegno in politica. In questo momento. In questo momento è escluso. Caspita, si può cambiare idea del resto della propria vita o no? Michiché, leader di Grande Sud, Forza del Sud, non so come diavolo si chiama, me lo scordo sempre, Gianfranco Michiché, ex PDL, che innanzitutto che canta Shapiro ieri sera, canta Shapiro, bisogna saper perdere, mettiamo bisogna saper perdere di Shapiro e poi Michiché che la canta. Bisogna saper perdere, non sempre si può vincere, ed allora cosa vuoi? Quante volte lo sai si piange d'amore, ma per tutti c'è sempre un giorno di sole. Beh, la voce di Gianfranco Michiché, chi hai con te lì, Parenzo? Ciao, non sono Parenzo, sono una collega di Parenzo. Perdonami, ho io il suo telefono. Una collega? Che vuol dire una collega? Ma chi lo dà il telefono, Parenzo? È perché è andata a fare un'intervista di portata proprio internazionale. Ma quale portata internazionale c'è stata, Alessandria? Al massimo alla portata di Alessandria, non di portata internazionale. Perdona la voce, ora te lo passo che sto scendendo le scale. Ma scusa, ma tu chi sei? No, così per curiosità. Perché... Io mi chiamo Jaira. Jaira. No, Zaira con la Z. Ah, Zaira. Sì. E saresti una collega di Parenzo. Che vuol dire una collega di Parenzo? Una collega, una producer della 7 che curo, diciamo, sui collegamenti in esterna. Ah, ho capito. Zaira, perché hai perso la voce, Zaira? Perché faceva freddo ieri al PD, al congresso del PD, e anche qua ad Alessandria piove, fa freddissimo e purtroppo mi è calata la voce. C'è roba che non riesco proprio a parlare. Beh, infatti si sente. Si sente. Però ha un suo fascino questa voce. Ha un suo fascino. Grazie, ripassami Parenzo. Okay, grazie Zaira, grazie. Grazie, ha anche una bella voce, signora Zaira. Pronto? Aspetta, amici che è sulla droga. Uno spinello, ma andai fuori di testa, senti. Qualcosa come 20 anni fa. Fuori uno spinello e mi andò via la testa a tal punto da spaventarmi. Per cui è un discorso chiuso. Basta così. Sigarette, Marlboro. Cocaina? Sentiamo. Nella mia vita avevo fatto anche questa esperienza. Che non ho mai rinnegato nulla di quello che ho fatto nella vita. Posso avere sbagliato, ma non rinnegarlo. Posso dire, se dovessi rinascere, quella cosa non la rifarei, ma non rinnego nulla, non sono di quelli che nasconde le cose, l'ho sempre detto apertamente. Titoli del TG3, poi andiamo da Parenzo, che stavi facendo, non si capisce, eri al bagno molto probabilmente, no? Beh, era un'inchiesta internazionale che stavo sviluppando. Ma quale? Al cesso dell'albergo? Dove? No, poi non ho capito, mi hai nascosto l'esistenza di questa Zaira, dal nome affascinante, dalla voce rauca, no, rocca. Ma l'esistenza è... Vabbè, lasciamo bene, abbiamo capito tutto, vabbè, non c'è bisogno che spieghi. Parenzo si trova in un albergo di Alessandria con uno che si chiama Zaira, vabbè, abbiamo capito tutto. È la producer della sì, sede, ma sei dice, un cretino. Si dice sempre così, comunque i titoli ma del TG3. Ma cosa c'hai nel cervello? Ma ti vabbè, è andato un tarlo nel cervello? Comunque abbiamo detto tutto, titoli del TG3, non c'è problema. Adesso poi ti spiegherai, però per quelle cose non è che qui è porta a porta, sai, queste cose qui, no? Comunque Albergo, Parenzo, Zaira, abbiamo capito tutto. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. È morto l'ex arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini, uomo del dialogo, aveva scelto di vivere a Gerusalemme e rifiutato l'accanimento terapeutico. Berlusconi contro il Quirinale, manovre di condizionamento torbide e brutali, ma io sono totalmente estraneo, giusto sollevare il conflitto di attribuzione. Cosa si muove dietro l'attacco al Quirinale? Solidarietà al Colle, ma anche distinguo. Il PDL rilancia sulle intercettazioni. Massimo D'Alema ospite del TG3. Ma è così grave l'emergenza lavoro per i disoccupati? Il dato più alto da 14 anni. 3 milioni di precari. Al sud una donna su due è senza occupazione. Fumata grigia al Ministero dello Sviluppo sull'Alcoa di Portovesme. Tra una settimana la decisione. Passera la Carbosucis. Non chiuderà a dicembre. Nuova emergenza a pochi giorni dall'inizio della scuola, mancano centinaia di presidi in attesa dei ricorsi dopo il flop dei concorsi, record in Lombardia. Forte scossa di terremoto nelle Filippine, crolli, vittime, strade e palazzi devastati, per alcune ore allerta tsunami in tutto il Pacifico, poi rientrata. Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. Vuoi fare la punturina a Villaggio? Parenzo? Altro che punturina a Villaggio. A chi la vuoi fare la punturina? Ce ne voglio. No, dico altro che una. Ah, oddio, vuoi fare proprio il punturone, cioè, la... Una ogni ora bisognerebbe fargliela per quello che ha detto. Non è che, insomma, Giorgia no. Da Trento. Giorgia da Trento, buonasera. Giorgia da Trento, chi è? Pronto? Una tua amica, Giorgia, è bravo. No, bravo. No, non è una amica, un'ascoltatrice. Hai amiche pure a Trento. Ma è inutile adesso che cerchi di... Ma è inutile che cerchi di ribaltare. Prima mi hai passato il telefono con una che si chiama Zaira, che sta nel tuo albergo. Punto, basta. Abbiamo che detto. Ma abbiamo capito, l'ha spiegato lei. Ma sei stupido. Ma l'ha spiegato lei, però io voglio dire che tanto tu mi hai passato il tuo telefono. Ma butti dei veleni, il suo fidanzato, chissà che cazzo pensa, comunque, sei stupido. Sei. Giorgia da Trento. Pronto? Buonasera, dica. Buonasera, Cruciani, buonasera, Penso, ma esistete davvero allora? Non si può nemmeno scherzare ormai con Parenzo su queste cose, è una cosa pazzesca. Fai qualcosa, è malato, non può più lavorare, Squinzi, fai qualcosa, è Giorgia, dica. Malato. Giorgia, allora, dica. Io intervengo perché mi sento un po' madrina di questo evento. Qual è l'evento? Visto che Galeotto fu vedrò. Ma cosa? Ma di che stiamo parlando? Stiamo parlando di una nuova liaison amorosa tra Cruciani e Selvaggia Lucarelli. Vabbè, lei può tranquillamente parlare con altre trasmissioni di queste cose, non si occupi della... Lei perché si deve occupare della mia vita privata? Mi occupo di questo perché lei è molto meno caustico ultimamente. Adesso sappiamo il motivo. Oh, molto meno caustico. Ma veramente non mi risulta. Non mi risulta. Parenzo è molto contento, vero Parenzo? Godo. Io non so nulla di questa vicenda, né mi interessa entrare sotto le lenzuola di Cruciani. Ma voi come non entro nelle lenzuola dell'ex del consiglio? No, veramente ci sei sempre entrato. No. Però dica. Cosa ridi, imbecille? Cosa ridi? Ma questa è la dimostrazione che possono chiamare tutti e dire quello che vogliono. Non capisco questa sottile ironia della signora Giorgia da Trento. Perché? No, lei è abituata a essere insultato, ma io sono veramente contenta perché tra l'altro ma è una bella ragazza. Ma contenta di cosa? Ma contenta di che? Preparata, sa parlare. Ma contenta di cosa? Ma contenta di cosa? Ma questa relazione. Ma dove legge? Lei tutto quello che legge pensa che sia la verità? No, però è una possibilità. Appunto, una possibilità come tante. Allora, diciamo che se fosse vero sarei molto contenta. Va bene. Perché lei dovrebbe essere contenta se non conosce nemmeno la signora Lucarelli? Scusi, perché? Così è contenta in qua. Sì, sono contenta di nascita proprio. Come quelli che leggono le riviste, magari no, dal parrucchiere dice: ah, sono contento se quello sta con quello sta con quell'altro. È una cosa pazzesca, c'è la Giorgia. No, scusi. Io di solito non detto con tutto il rispetto, detto però, con tutto il rispetto. No, ma infatti non mi sono mica offesa. Però vabbè. In questo caso, trattandosi di che? Di lei Cruciani. Ma non è che tutto quello che viene scritto corrisponda a verità? Assolutamente. È una possibilità. Ma non è vero, ma chi l'ha detto? Sì, chi lo sostiene? Mi lasci andare a dormire felice per questa notizia. 0,001. Dunque, lei vada a letto pensando ad altro. Sì, non adesso, però. Grazie. Leonardo da Milano, stasera. Sì, che cosa vuoi? Che continuo su questa cosa, Parenzo? Non ho capito. Pretendi che continuo su questa cosa? Leonardo. Per carità. Leonardo da Milano. Non ti curar di loro, ma dai, passa, per carità. Leonardo, dica. Buonasera. Dica. Volevo chiedergli solo una cosa, perché più l'ascolto, più lei mi sembra una persona che deve fare la campagna elettorale più che un giornalista. Ma per chi la dovrei fare la campagna elettorale, scusi? Non lo so. Da quello che dice, sì. Per esempio, ogni. Ma per ogni chi la farei la campagna elettorale, scusi? Ah, non lo so, questo me lo deve dire lei. Ma scusi, ma lei ha detto più l'ascolto e più mi sembra di capire che lei deve fare la campagna elettorale, ma per chi? Evidentemente contro Renzi, perché ogni politico di destra che lei intervista gli chiede se gli piace Renzi o no, giusto? Quindi lei implicitamente vuole indurre la gente di sinistra contro Renzi. Ma lei è malato, Leonardo. Lei ha un problema molto grave. Guardi, io cerco semplicemente notizie. A me di Renzi, di Bersani. Cioè, tra Renzi e Bersani preferisco Renzi, su questo non c'è dubbio. Ha proprio sbagliato indirizzo, perché io tra Renzi e Bersani metterei 140.000 X su Renzi. Su questo non ci sono dubbi. Dopodiché, se lei vuole... Allora perché faccio il giornalista? Lei ha capito o no che cerco le notizie? Che non me ne frega niente degli equilibri, delle cose? Lo vuole capire o no? Oppure pensa che ci sia dietro sempre un disegno? Proprio perché lei preferisce Renzi, non dovrebbe fare così. Perché così lo dovrei favorire. Bella idea che lei ha di questo, di quando uno sta dietro il microfono, di un giornalista, anche se mi fa orrore questa parola. A non votare Renzi per le primarie che è l'unica persona che ci può portare fuori da una. Ma una adesso non esageriamo, no? I messia non ci sono, e poi comunque io faccio un'altra cosa nella vita, non faccio quello che lei dice, le campagne elettorali, faccio un'altra cosa, penso in maniera autonoma, non è perché mi piace Renzi allora faccio dei favori a Renzi, lo capisce o no? Borsa. No, ma dovrebbe. Ma che dovrei fare favori a Renzi? Vabbè, quello gli faccia lei che non fa questo mestiere. La zanzara che arriva ogni estate in città, e la zanzara che punge e poi se ne va, si chiama tigre oppure si chiama zezè, ma questo insetto che noi... Va bene, chi c'è? Ancora la signora, com'è che si chiama? Zaira, caro David? C'è ancora la signora Zaira, forse? Sì, sono io. Ciao. Perdonami, ormai da sta deciso così. Ma che sta facendo Parenzo? Parenzo si sta coordinando con tutti i rappresentanti insomma, della giunta comunale, per cui... Ma noi ce ne freghiamo, ma dobbiamo fare la zanzara qui, glielo vuoi dire per favore? Che me ne frega a me di Alessandria? Sono disperato, non me ne frega nulla, tu hai pure perso la voce. Hai perfettamente ragione, però ambasciatrice non porta pena, questo lo condividi. Anche a te non te ne frega niente di stare là con Parenzo, diciamo la verità, staresti volentieri da un'altra parte, dilla tutta, cara Zaira. Cara Zaira, no, io alla fine ci divertiamo perché mi diverti? Certo. No, io sono fidanzata, non ci divertiamo in quel senso. No, ma chi ha detto niente? No, volevo specificare, questo è chiaro. Vabbè, adesso non è che la dichiarazione scusa, non è che c'è la dichiarazione del Presidente della Repubblica che bisogna specificare. Ci mancherebbe, no. Ma scusa, me lo ripassi un attimo, no? Sì, perché io, sai, dovrei condurre una trasmissione radiofonica, scusa. No, mica è colpa tua, è colpa sua che ti ha dato il telefono, per carità. Ok. Grazie. Allora, abbiamo già un grandissimo ospite in collegamento. Buonasera, come sta? Facciamo partire una querela per diffamazione con Di Cruciani. Come sta? Ti passo un uomo del comune, no? Un consigliere comunale. Sì. Consigliere comunale, in diretta alla Zanzara, in grande esclusiva. Ma non me ne frega niente, abbiamo un grande ospite, riprendi il telefono, Parenzo, riprendi un grande ospite. Eccolo. Assessore, buonasera. Sì. Parenzo, molto lieto. Sì. Vabbè. Vogliamo venire in diretta, Parenzo, oppure devi fare ancora questo show dal comune di Alessandria fallito? L'assessore del comune di Alessandria. La vuoi smettere di criticare il lavoro sul territorio che ti sto facendo per raccontarti storie? La vuoi smettere? Ma io non la smetto per niente, perché non me ne frega nulla del fatto che tu stai ad Alessandria. A me ad Alessandria mi interessa solo una persona, lo sai, me la porterei al microfono dopo alle 20:15. Intanto è con noi, lo sai chi? Lo sai chi c'è? Un nostro caro amico, è tornato qui alla Zanzara. Glucksmann. No, ma non è amico nostro Glucksmann, è amico tuo Glucksmann. Sigmund Bauman, cioè. Ma chi è Sigmund Bauman? Quello del filosofo, finalmente alziamo il livello. No, è un giornalista, un grande giornalista che ha fatto anche... Per forza, grandissimo giornalista, deve essere Vittorio Zucconi, ottimo. Vittorio! Ma non è ottimo. Vittorio Zucconi, assolutamente. Scalfari, Eugenio. Ma ciao, non Eugenio, è Scalfari, è uno che vuole entrare in politica adesso, vuole addirittura entrare in politica. Vuole entrare in politica, signor Fede allora. Emilio Fede, buonasera Emilio, direttore, come stai? Ciao ragazzi, grazie per aver sollevato il morale, perché c'è un pazzo, vero, pazzo, che 80 telefonate minaccia. E sarebbe facile trovarlo, basta confrontare i tabulati, che minaccia di fare attentati esplosivi, 80 telefonate fra ieri e oggi. Ma chi è? La polizia postale, lo so, numero come si è coperto, numero privato, sì, numero può trovare la polizia postale, lo può trovare, questo è un passo. Ma che ti dice? Vabbè, a parte contro di me che vuole uccidere eccetera, ma anche sta preparando, lui dice, ordigni esplosivi. Non so verso dove, e si può prendere, perché sai, i tabulati dicono tutto. Beh, ma è gravissima questa cosa. Va bene, amici miei. Scusa, Emilio, però questa qua è una cosa gravissima, quello che stai dicendo. C'è uno stalker di Fede, in pratica. È uno stalker non solo nei miei confronti, 80 telefonate fra la giornata di oggi, la notte, tutta la giornata di oggi, dicendo che lui darà un segnale che sta preparando ordini esplosivi, non si capisce contro chi. Un passo. Ma e cosa ti dice? A te cosa dice? Ti minaccia in che modo? Non lo so, ma non vuol sapere perché non faccio più il TG4 e poi va bene contro Berlusconi, ma a parte questo, quello che mi preoccupa è che un pazzo insistente, l'ho fatto sentire anche ad altre persone, anche a viva voce, che dice che lui sta preparando degli ordigni esplosivi e diventerà famoso. Basta farlo diventare famoso, prendere. Ma è un mitomane questo qua. È un mitomane. Se portarlo col tabulato lo pescano subito. Allora facciamo un appello alla polizia postale. Se avete sentito questa denuncia via radio di Emilio Fede, intervenite subito, perché ci sono telefonate. Tanta telefonate, 90 da ieri mattina, stanotte e oggi. Una cosa pazzesca. Parenzo, hai capito? Tu non hai nessuno stalker, Parenzo? No, sono sconcertato e molto dispiaciuto per questa cosa. Dico in maniera minore che anch'io ho ricevuto attacchi, minacce, insulti da un sito. Ah, bravo, questo è interessante. Se non è un nazista, ho già denunciato tutto alla polizia. No, diciamo anche come si chiama questo sito, diciamola tutta, perché ti hanno chiamato giudio in senso dispregiativo, eccetera, eccetera, no? E varie cose. Ma devono prenderli, questi le querele o le denunce rimangono lì, ma capisci che questo è un pazzo, ed è un pazzo. Va bene, ma va preso. che ci vuole, si prende il mio numero di telefono che lui chiama, lui compare col numero nascosto, il confronto al tabulato lo trovano. Vabbè, quello sì, il numero nascosto è semplicemente un modo per nascondere il telefono a chi riceve la telefonata. Ma questa l'ha fatta 80-90, capito? Ti fa dire che sta preparando degli ordigni esplosivi, o interviene la polizia postale, che fanno? Le denunce, sì, buonanotte. Però qualche cosa bisogna denunciare, perché altrimenti quelli non si muovono, come fanno a muoversi? Forse se chiama la zanzara quelli si muovono. Si muovono sicuro, infatti lo sto dicendo adesso, le denunce passate non fate, sono rimaste lettera morta, vabbè caro direttore. Benvenuto come grande giornalista dal punto di vista dell'anagrafe, va bene. No, che anagrafe? Che c'entra l'anagrafe? L'anagrafe è quella che è. Che succede? Chi è che si è messo in pausa? Parenzo, chi è? Allora, no, io voglio dire una cosa. Vogliamo vivere, Emilio, ma che ti sei messo in testa, caro direttore? Allora, eccoci. Ma che ti sei messo in testa di fare la politica con un movimento nuovo, pure tu? No, il mio è un movimento d'opinione. Non ho precisato anche, non penso di fare un movimento politico, non bisognerei... Come no, l'hai detto, una lista accanto a quella del PDL, della destra. No, io ho detto un movimento di opinione, cioè ritengo che con tutte queste liste, cioè un momento in cui io non ho più la voce in un telegiornale, però incontro la gente preoccupata, veramente, sinceramente preoccupata. Ho capito. Anche voi, ma dove la incontri la gente? Non è che state la incontro per strada, la incontro sempre da Capri, sul traghetto, in treno, cioè incontro dappertutto, la gente è legittima. E che ti dicono, Emilio, ritorna, te lo dice qualcuno? Nei miei confronti, figurati. Ma qualcuno te lo dice, non Emilio, ritorna? Assolutamente un personaggio indispensabile. Ma qualcuno te lo dice, Emilio, ritorna? Emilio ritorna, le colline sono in fiore ed io, amore, sto soffrendo di dolore. Non è questo. Però devo dire, qualcuno ti dirà, torna. Torna. Guarda, c'è un momento della vita in cui si volta pagina. Io ho dato, credo di aver dato tanto, di aver dato onestamente, di aver dato tutto quello che ho potuto. Probabilmente farò un programma, non lo so, se me lo fanno fare, eccetera. Se non me lo fanno fare, pace. Perché ho letto che qualcuno a Mediaset dice, in particolare il capo dell'informazione Crippa, se ci sono i soldi, se presenta un progetto. Beh, insomma, ti trattano malissimo questi qua, diciamola tutta. Ti trattano come una pezza da piedi, come no? È responsabile dell'informazione, ciascuno il proprio ruolo. Ha detto se presenta un programma, se presenta un'idea. E se ci sono i soldi, ha aggiunto. I mezzi, ragazzi, sono stretti per tutti. Però mi pare che ti trattino come una pezza di piedi. L'impressione è questa, Emilio. Parenzo, sei d'accordo o no che lo trattano male? David? Ci sei o no? Ma certo che ci sono, dico semplicemente che il signor Crippa ha detto una cosa sacrosanta e giusta, da manager di azienda attento qual è, il signor Crippa ha detto... bravo Crippa, cioè evidentemente. Ma tu vuoi lisciare il pelo al signor Crippa allora? No, ma non voglio che sembri così, dico semplicemente che è ottimo nella sua gestione aziendale. Fede, Parenzo vuole andare a Mediaset, ho capito. No, ma ecco perché mi hanno tolto, è lui la quinta colonna. Comunque effettivamente c'è una situazione che è molto impegnativa dal punto di vista economico, c'è quindi una fatica enorme che si deve fare ancora a fare informazione. Prendono pure Minzolini, ma quale problema economico? Pagandolo un sacco di soldi, ma che stiamo a dire? Dai su, Emilio. Perché io devo dire, non lo so se questa cosa di Minzolini l'ho letta anch'io sul giornale, come l'avete letta voi, è stato chiesto la presentazione della nuova... Ma è sicuro, dai, già si sa, è inutile che stiamo... Devo dire la verità che anch'io la penso come te, non perché lo sappia, faccio un'ipotesi. Ma perché lo sai? Perché te l'ha detto Silvio? Perché, no, penso che anche questo movimento, movimento di opinione, lo sai, sai che lui l'ha preso oggi sui giornali, tra l'altro. E che ti ha detto? Non ne abbiamo parlato, non gli ho detto niente. Facciamo gli auguri per che cosa, dici? Perché è caduto, si è lussato la spalla. Fagli gli auguri in diretta qui, se non l'hai sentito. Caro Silvio, tanto glielo riferiscono sicuro al 100%, c'è un sacco di gente che ci ascolta. Presidente, io sento Presidente. Di spalle ce ne sono due, tu le spalle ce l'hai forte, quindi va bene su. Perché questa, ma l'ha fatto, credo, facendo jogging. Ormai è fissato, ha perso 7 kg qui in un mese e mezzo. Infatti è quello che gli serve, sentirsi bene fisicamente. Ma l'ha saputo dai giornali?

Con Falonieri? No. Certo, e con Falonieri lo volevano candidare sindaco. Quando? E avrebbe anche vinto. A Milano. A Milano, sì, a Milano. Allora, voglio dire, Saviano, pensa quanto siamo distanti. No, Saviano no, Saviano. Ma lei ha attaccato in mille modi, ma che ti è successo? Saviano lo vorresti nel tuo movimento, lei ha attaccato in mille modi, l'hai massacrato. Certo, ma cosa vuol dire l'ho massacrato? Ho detto quello che pensavo, poi in realtà poi in parte si è diciamo così, un po' tirato un po' il remo in barca. Insomma, le varie politiche. Vorrei Saviano con me, vorrei Saviano con me. Vorrei anche Saviano con me, perché no? Beh, ma questa è una bella provocazione, no Parenzo? Saviano... Emilio, io qui a fianco a me ad Alessandria, comune che come tu sai, perché sei un grandissimo giornalista, che è in dissesto finanziario, un comune tecnicamente fallito, allora? Un comune d'Italia. Al mio fianco ho convocato nella stanza del sindaco... Sì. Uno dei personaggi forse più discussi di questa città, ma lui adesso si arrabbierà, ma io glielo devo dire in faccia, che è il signor Onorevole Grassano. Allora? È stato deputato della Lega, poi è passato con Popolo e Territorio, sì. Che è qui ed è disponibile, mi ha appena detto, a candidarsi nel partito di Emilio Fede, e ora te lo passo. Aspetta, dopo, perché adesso, scusa? Eccellenza, non è colpa mia, anche a me mi ha tirato il pacco, mi sa come è a te. Professore, come sta? E noi siamo ancora liberi per il momento. In che senso? Ma ho letto da qualche parte in un'intervista che voi hai problemi finanziari, vuoi restare per forza alla Camera, sennò sei rovinato. Esatto. Ma è così, veramente è così? Quello che ti dica, io faccio parte della schiera degli onorevoli poveri. Cioè, se tu esci dalla Camera, se non verrai più ricandidato, sei rovinato? Sì, diciamo che devo andare a mangiare alla Caritas. Ma addirittura, però, non ci credo, dai. Però mi sono portato avanti col lavoro, perché conosco qualche presidente della Caritas e quindi... Ma se pure, ti sei pure separato, quanti soldi devi dare alla tua ex moglie? Guarda, non ne parliamo. Quanti soldi? Allora, diciamo che mi porta via i due terzi dello stipendio. I due terzi dello stipendio? Quanti figli hai? Quanti figli hai? Sono uno. Un figlio. Scusa un attimo, voglio dirti una cosa, ma però hai commesso un sacco di errori, donne, cose, tu sei un amante della bella vita. Su questo c'hai ragione, infatti devo darglieli per forza perché è stata colpa mia. Perché? Che hai fatto? Zozzerie pazzesche. Appunto, donne, quello che dici te. Donne, cioè amanti. Tu prova a immaginare quello che posso avere fatto e sicuramente è peggio. Ma veramente stai dicendo? Ma veramente stai dicendo? Cioè, sono una birba. Ma anche droghe? No. No, parliamo solo di donne. No, solo, cioè tutto, amanti più non posso, cose di questo tipo. Sì, e pensa che quelle robe lì costano anche di più, quindi cioè hai pagato, dici? Escort, va bene. No, perché no? Escort, non c'è niente di male pagare. Non c'è niente di male, però guarda, tu mi insegni che quelle normali costano di più. Che senso, scusa? Perché poi c'è un sacco di pretese, vogliono andare a cena. Ma chi è che ti ha rovinato? Le donne? Chi è che ti ha rovinato? Le donne, alla fine? Chi mi ha rovinato? Ma chi mi ha rovinato? La testa. Non lo so ancora. La testa. Mi sa che mi sono rovinato da solo. Lo so, appunto, dico le donne, nel senso, hai capito qualcosa di quello che ha provocato questo? Sei andato a farti vedere, che ne so? No, guarda. Un psicologo, non lo so. No, mi piaccio così come sono, non ho bisogno di... Per cui non ti penti di nulla? No, perché mi devo pentire? E che ne so, divertito. Ti sei divertito, però adesso paghi. È giusto. Se non resti con lo stipendio della Camera, sei praticamente rovinato. Così. Io, ma anche la mia ex moglie, perché non gli vedo più. Io sono preoccupato perché ci conosciamo da tanti anni con Grassano. Questa cosa qui è una cosa che mi sta proprio qui. Cioè, no, veramente, non sto dicendo... Ci conosciamo da tanti anni, ci siamo visti una volta a Roma, mi ricordo, di passaggio, però alla radio ci sentiamo frequentemente. Insomma, mi dispiace tutto questo. Ma Berlusconi non ti ha promesso nulla? Ma lo sai che io non ho chiesto nulla. Però sì. Qualche promessa da qualcuno, che ne so. Lo sai che io sono stato l'unico pirla che probabilmente non ha chiesto nulla. Ho capito, però, ma qua però almeno su questa roba qua sono contento, perché io vado a letto la sera e dormo e non ho problemi. Però scusami Maurizio, al mattino mi posso guardare allo specchio, non ho problemi, perché però scusami Maurizio, non ci sono garanzie di nulla, cioè sulla prossima legislatura, niente, no? Tu lo sai che questo mondo l'unica garanzia che abbiamo è quella che tutti dobbiamo morire prima o poi. Sei malinconico, sei triste, capisco che Parenzo, avere Parenzo accanto non è proprio il massimo della vita, però... Vabbè, no, è un bravo ragazzo. È un bravo ragazzo. Beh, ripassagli un attimo il telefono, resta qui con noi. È 800 24 00 24. Questa è la Zanzara. Abbiamo con noi Emilio Fede. Voglio chiedere subito una cosa al direttore Fede. Quelli del TG4 dicono che cambiano completamente linea editoriale. Non è più quella di Fede, basta Meteorina. Abbiamo cambiato, anche polemiche nei tuoi confronti sulla questione degli ascolti. Il direttore Toti, lo conosci il direttore Toti? Il signor Toti? Sì, guarda, io conosco tutti. Auguro a tutti veramente, sinceramente, la grande fortuna. Il TG4 resterà comunque vada protagonista della storia del giornalismo televisivo, per forza. Toti è uno giovane, sì, farà le ossa come le sono fatte io me le sono fatte con Biagi, con Bernabei, me le sono fatte insomma, con personaggi che io ho cercato di dare tutto il possibile. Però vogliono rompere tutto, vogliono proprio tagliare, vogliono recidere tutto quello che hai fatto tu. Cioè, tu, una cosa è quello che è stato fino adesso, poi si cambia pagina, cioè finito, proprio taglio del cordone ombelicale, tutto. Allora, ascolta, voglio dirti una cosa. Io ho avuto la vicenda della valigetta con la quale avrei passato 2,5 milioni. Vabbè, il processo, eccetera, eccetera. Brubi e si è stabilito che non l'ho portata io. Vabbè. Cioè, si sta smontando un po' tutto quello che sono stati i momenti. Però questo avermi caricato di responsabilità ha fatto sì che l'opinione pubblica è dalla mia parte. Allora, io ho lasciato il TG4, direi in buona salute. Se loro migliorano, tanto di guadagnato. Non è momento di polemiche. Alla mia età io posso guardare a tutto ciò che ho creato, l'ho creato io. L'informazione a Mediaset è partita con me e sono stato, fammelo dire, perché vogliamo vivere, fammelo dire, quando io sono stato assunto da Biagi e quando Biagi ha festeggiato i suoi 80 anni al Teatro Nazionale di Milano in diretta su Rai 2, tra i 5 protagonisti della grande Sì, però Emilio, il punto è che adesso questi qua dicono che hanno la loro ragione da dire, che io forse ho detto sugli ascolti, ma non mi interessa il problema degli ascolti, è un problema di qualità o di quantità. Non l'ho più visto il telegiornale. Cioè ti dà fastidio, è come morire un po'. No, ti dico perché. È come aver amato tantissimo la donna, la perdi, non vuoi soffrire rivedendola. Bravo, sì, questo è vero, questo è vero. È come perdere, questa è una bella metafora, è come perdere una donna, giusto? Sì, è come perdere un amore. Un amore, dunque alla fine è stato un amore. E dunque non vuoi più rivederla. Mi farebbe tenerezza, non è, cioè, mi fa tenerezza. Io abito a poco distante dalla redazione del TG4 per 24 anni. Ogni mattina io. Ma di chi è quella casa famosa? Di chi è? Guarda, questa casa? Questa casa è in affitto. È in affitto, ma te lo pagano ancora l'affitto? Io sapevo che te lo pagavano. Ma scusa, ma certo, ma io ho un contratto di nuovo dal 1° giugno. Ho un contratto. Siamo trasparenti. Questo contratto, da quello che io so, direttore, da quello che io so, ma sono tutte cose che tu meriti, per carità. C'è l'autista, giusto? L'autista, la casa? Sì. La casa, l'ufficio? Caspita. L'ufficio e una trentamila euro al mese? 20.000 euro netti al mese. 20.000 netti al mese. Neanche un euro di buonuscita dopo 24 anni, E ti voglio dire una cosa. Ho capito, però sono 20.000 al mese intanto. È 20.000 netti al mese, 20.000 netti al mese. Ho capito, ma scusa, ma sono anche 24 anni che ho lavorato come un pazzo. No, ma perché l'ufficio? Questo non capisco. Per l'ufficio perché... No, ma perché è previsto che io debba fare un programma. È chiaro, no? Ma questo contratto per quanti anni è? Guarda, È un vitalizio. No, che vitalizio? Non ho bisogno di vitalizi. No, è un contratto di 3 anni, dignitoso. Tre anni, dignitoso. Insomma, adesso 20.000 netti al mese è più che dignitoso, direttore. Ma meriterei forse anche molto di più se tu pensi a tutto quello che io ho dato e che cosa rappresento nel giornalismo. Eccoci, 800 24 00 24, con Emilio Fede, ultimi minuti qui alla Zanzara. Beh, caro Parenzo, se li merita o no il direttore Fede questi soldi, questo contratto sontuoso che gli ha fatto in uscita Mediaset? Sontuoso, ma scusate, voglio dirvi una cosa rapidamente. Nessuno di noi, per i versamenti che durante una vita di lavoro, ha un suo fondo pensioni, vabbè, un suo fondo, sì, il suo fondo infimi, no? Che hanno tutti i giornalisti. Vabbè, sono 20.000 netti al mese. Scusa, di quello che ho accumulato. Bene, allora ho chiamato l'INPGI per sapere quando potrò prendere questi soldi, perché mi servono, perché non ho preso niente. Va bene, sai cosa mi hanno risposto? Che siccome c'è la crisi, prevenzionamenti eccetera, li potrò avere fra 7 anni. Ma cosa? I soldi della pensione, dici? I soldi del nostro fondo pensioni. Ah, e vabbè. Fra 7 anni, no, non dire va bene, perché questo veramente... Cioè, pensa a quelli che non avrò io, allora. Appunto. Noi manco quelli avremo. No, tu li avrai perché tu sei assunto a tempo indeterminato con tutte le... Vabbè, lasciamo perdere queste cose nostre, su. Io tipo, ho che cosa ho? Quello di avere fatto 27 anni in Rai, 2 anni... Ho capito, ma prendi 20.000 netti al mese adesso, Emilio, dai. Ma ragazzi, ma 20.000 euro netti al mese sono... Quando io... Ma che ci fai con tutti questi soldi? Poi 20.000 netti al mese. Che ci fai con tutti questi soldi? Se c'hai l'autista pagato, la casa pagata, che ci fai? No, attenzione. Io ho la macchina sulla quale il leasing pago 1.500 euro. Ma scusa, ma non te la dà l'azienda la macchina? No, la macchina me la dà, nel senso che io pago il leasing alla società di 1.500 euro al mese. Ho capito, c'è l'autista però a disposizione. C'ho un autista, sì, a disposizione, sì, l'autista, ecco. A disposizione, quando mi serve. Quando ti serve, beh, sempre, cioè sempre. Vabbè, se ma io non è che lo chiami, questo io, certo. Dico, fino alla fine di marzo che cosa ho fatto nell'azienda? Mica sono andato via rubando. No, per carità, però c'è anche il coso, sì. C'è anche l'affitto della casa. Oh, ma ti pare poco l'affitto della casa? Ma lì a Cologno, là a Milano 2, costano un sacco le soldi le case. No, non è vero, mica è un appartamento di lusso, no, figurati. Tant'è che me la prendo qua, ho detto all'azienda che me la pago io perché voglio restare qua. E quando è che te la pagherai? Dopo? Dici, dopo alla fine dei contratti? Sono 1.300-1.400 euro al mese, non è che sai navire loro. Quello che manda mia moglie, anche le mie figlie, dai su, non stiamo a trasformare 20.000 euro come fosse in un fondo ricchezza. Sai qual è la verità? Che nessuno dice quello che guadagna. Ma a 81 anni, dopo 60 anni di lavoro, se tu pensi che io nell'ultimo periodo, in un anno e 8 mesi, non ho fatto un giorno di vacanza, non sono uno che beve, non sono uno che si droga, non sono uno che fuma. E che ci fai con i soldi? Non sono uno che va in discoteca, no! Ho dato la mia vita a questa professione, sono felice di averlo fatto, ma non mi dite che 20.000 euro sono la ricchezza. Ma no, ma insomma non sono la ricchezza, 20.000 netti sono tanti, comunque vabbè. Comunque Emilio, senti, ma perché ce l'hai tanto con la Santanchè? Dici il PDL non no, può... No, ma io no, non ma è come che no? L'hai attaccato alla grande. È molto guarda, è molto carina con me, siamo molto amici, tant'è che quando io ero direttore lei mi telefonava spesso, io la mandavo in onda spesso. Quando poi non sono stato più direttore ho avuto bisogno di chiedere una cosa, l'ho chiamata, ho detto, ma Emilio, scusami, ho un momento da fare, ma tra 5 minuti ti chiamo. È successo 2 mesi fa, non ho ancora chiamato, ma chiamerà, perché figura se non chiama. Io solo ho fatto una riflessione. Hai fatto un riferimento diretto, non si può lasciare il PDL alla Santanchè, le donne non possono... No, io ho fatto un riferimento dicendo, Berlusconi che si presenta come futuro capo del governo... Ma non tornerà mai a Palazzo Chigi, Emilio. Ma io auguro anche al paese di sì. Vabbè, non ha importanza, non facciamo la scelta di campo. Ho letto anche, avendo come vice premier la Santanchè, a questo punto mi sono chiesto, l'elettorato femminile è legittimo? Ecco il mio momento d'opinione, che cos'è? E qual è? L'elettorato femminile è contento di avere la Santanchè vice capo del governo? Io personalmente no. E perché no? Perché no? Perché ci saranno altre donne che possono... Che meritare. C'ha la Santanchè che non va? Ma non saprà niente, ma voglio dire, comunque, a me non va bene. Adesso mi prenderò Sallusti addosso. Adesso la cosa, sapete cos'è la cosa veramente divertente? Adesso si affronteranno, sarà uno sbizzarrirsi nel tentare di dire di me peste e corna. Non ha importanza. Ma noi no, noi mai. No, mai, e se ci voglio soltanto concludere dicendo... No, una cosa, io vorrei capire una cosa. Io farei un primo punto programmatico, Parenzo, del partito di Emilio, del Movimento d'Opinione. Movimento d'Opinione, d'accordo, vogliamo vivere. Parenzo, lo vogliamo fare il primo punto? Sì. Parenzo, la legalizzazione della prostituzione. La legalizzazione della prostituzione. Beh. Ma io per esempio oggi leggendo la morte, mi dispiace moltissimo, che Daniele Martini ha rifiutato l'accanimento terapeutico. Io direi che quello dell'accanimento terapeutico è una decisione drammatica, ma che va fatta. No, ma però che c'entra l'accanimento terapeutico con la legalizzazione della prostituzione? Scusa. Ma no, per la storia della prostituzione non è un problema. No, la legalizzazione, ma tu la vorresti legalizzare o no? Io sì, per esempio. Sì, certo. Ma certo, cioè tu dici evitare la prostituzione in piazza, sulle strade. No, proprio fare le case chiuse di nuovo, reintrodurre i bordelli, tutto quello che c'era prima, quello che c'è adesso nei paesi avanzati. Non usando la parola bordelli, io sono perfettamente d'accordo con te, perché quello che si vede in giro è abbastanza... squallido, va bene? Facciamolo in casa, giusto? Facciamolo in casa. Bene. Guarda. Fatelo in casa. Certamente è uno dei problemi, ma io sto meditando su molte cose, ma dovete credermi, io non ho l'aspirazione di andare in Parlamento alla mia età. Peccato, peccato, peccato. Alla mia famiglia, però in questo momento, siccome mi riferisco alla gente che si rivolge a me, sì, non per chiedere il miracolo, che non lo posso fare, ma per chiedere a me che si fa, non si può continuare a vivere così, a vivere pensionato che non sa. Guarda, che questo è un problema sentito, è un problema molto sentito, quello della legalizzazione della prostituzione. Cioè, bisogna che le prostitute paghino le tasse, diciamolola tutte, Emilio, su. Sì, certo. Certamente guadagnano più di me. Ma no, come guadagnano più di te? Sembra piangermi. Ah, le escort guadagnano più di te, dici? No, le escort, dico la prostituzione in generale. Anche le oggettine guadagnavano più di te all'epoca. No, ma guarda, su questo argomento... Non entriamo in questo argomento. No, perché c'è ancora un processo. Non entriamo. La cosa che mi ha rattristato molto... Che cos'è? Che è successo? ...essere stato indicato come quello che va a portare la Ruby minorenne a Milano e da Milano ad Arcore. Ma sei contento? Sei contento che le... Sì, ma questo lo sappiamo. Ma Lele Mora, sei contento che sia uscito dal carcere? Sono molto contento che sia uscito dal carcere. Con me non si è comportato al massimo, però devo dire la verità, che lui si è comportato molto bene con tantissima gente che gli ha voltato le spalle, ma come sempre succede quando l'albero è caduto, tutti cadono a far la deglia. Devo dire però, se vogliamo dire, che questa dieta imposta gli ha fatto bene, cioè? È diventato un bel ragazzo. Cioè? È diventato un bel ragazzo, signor Mora? Sì, direi di... Beh, anche quando l'ho visto io, effettivamente non era messo male, non era messo male, anzi, gli ho fatto anche i complimenti, insomma, resta così con questa barbetta, no? Ma sì, guarda... Ma perché non vi riconciliate? Io? Ma certo, ma non lo posso chiamare perché siamo coimputati e non si può fare. Cioè, lo chiameresti subito? Ma subito, ma ci mancherebbe altro. Ma io e lui siamo stati non amici, tanto. Lo sappiamo, amici. Certo, non c'è dubbio. No, non c'è ma non complici, amici. No, ma io ho detto amici, gente, amici. Quando ci fu Vallettopoli, che si era trovato in braghe di tela, lui fra le prime persone che ha chiamato dicendo per favore puoi fare una dichiarazione, può fare il direttore che lei resta ancora i miei, come si chiamano, Parker, e io la Sabrina Ferilli, non mi ricordo chi altro, abbiamo detto sì, io l'ho difeso, gli sono stato vicino sempre, non mi pento assolutamente, quindi per carità non lo vedo, non gli parlo però l'hai perdonato per quello che ti avrebbe fatto, secondo te l'hai perdonato o no? Lui ha detto questa cosa, me la spiegherà un giorno, però l'hai perdonato, l'hai già perdonato? No, ma sicuramente sì, ci mancherebbe altro, perché è la valigetta, è Ruby e come si chiama, le cose che ha detto sono alcune delle cose sulle quali bisognerebbe fare. Vabbè, comunque l'hai perdonato. Abbraccialo via etere. Dagli un abbraccio. Assolutamente. Dagli, caro Lele, ti abbraccio. Lele oggi Gabriele, lui ha cambiato nome, ma certo, ma lui lo sa che siamo amici. Ti abbraccio anch'io. Ciao, voi Emilio. Voi siete amici e io vi abbraccio, vi saluto, vi ringrazio perché tutti insieme vogliamo vivere. Eccoci qui, 800 24 00 24. Gianni da Genova, Parenzo ci sei? Perché ti sento assente come al solito in questi minuti. Zaira, ma ripassami Parenzo, ma possibile mai che non si può fare una trasmissione radiofonica in pace? E questo è una cosa pazzesca. Sta parlando col sindaco. Ma chi se ne frega che sta parlando col sindaco? Chi è? Ma come chi è? Ma sono le 20:11, abbiamo un sacco di cose da fare. Aspetta ancora. Un attimo, che è arrivato il sindaco. Ma il me sindaco ne frego, digli che sei in diretta con la Zanzara e ti occupi di questa cosa dopo. Per cortesia vi portate dello champagne? Pronto, scusami. Ma quale champagne? No, degli inviati, sai. No, senti, comunque bene, è una bella trasmissione, tu sei un po' nervoso in questi giorni, va bene? Ma io non sono nervoso per niente. Saluto nulla. Squinzi, saluto da Ma grazie Taburini, che ma sono le 20:11. Stai zitto. Saluto la Lai. Vabbè, cioè, Gianni da Genova, fammi sentire Gianni della da radio, Genova, che sono delle brave persone, i colleghi della Telenews. Gianni da Genova, grazie, stai fermo lì, Gianni da Genova. Gianni? Non c'è. Bruno, provincia di Arezzo. Buonasera. Buonasera, dica. Senta, la Sant'Anchè non c'è più. No, non c'è più, ormai da tempo è andata via, sì. No, io volevo, mi è simpatica quella signora, anzi le voglio bene, perché devo dire che ha da fare molto, però da quando c'è lei Berlusconi non ha fatto più un passo in avanti. In che senso, scusa? Così dicaci per i Capezzone e i duo ex fascistelli. che stanno gli ex della nazionale. Volevo dire questo, mi dispiace perché ce la mette tutta. Poi per quanto riguarda Bersani, sì. Facciamo i confronti con Correnzi e lasciamo perdere. Bravo ragazzo, sicuramente, ma lasciamo perdere. Bersani, fino a prova contraria, guida un partito di 26%, sono qualche milione di persone, no? Non credo che ci sia da prenderlo sotto gamba. Poi ma chi è che lo prende sotto gamba? Scusi, chi lo no, prende? No, beh, no, che c'entra, lei fa il suo mestiere, per carità, lei anzi continua a farlo. Perché no, ma chi lo prende chi lo prende sotto gamba? Nessuno prende sotto gamba Bersani. Però, chi lo prende dicevo, sotto per quanto riguarda Bersani, dottor Luciani, molti dimenticano un particolare. Guardi, per esempio, una fesseria. Gli italiani oramai sono più di un anno che non pagano più 2 euro su 10 che acquistano per ricaricare il telefonino. Vogliamo per un'ipotesi fare il conto a 2 euro a costo la scheda, quanto hanno risparmiato gli italiani? Non è questo. Bersani si è mosso su tutti i campi e Bersani, tra l'altro, non si pregia molto, non è che si dà delle arie, ma credo che sia un ottimo economista, che quando in Europa lo conosceranno, ci riuscirà ad andare. Dove ovviamente a Palazzo Chigi sicuramente apprezzeranno quanto conti e forse come completezza. Va bene, grazie. Pasquale da Foggia, buonasera. Buonasera, salve. Dica. Io intervenivo per come dire commentare naturalmente in negativo l'intervento di Fede, perché bisogna anche dire ogni tanto che Fede è, dato che si parla di prostituzione, la prostituzione del giornalismo con quello che ha fatto su Rete4, e incensiamo un po' queste persone, non che lei l'abbia fatto, perché alla fine lei è molto in gamba, le devo dare alto, però ecco, insomma, ogni tanto fa bene ricordare queste cose che ci rinfrescano un po' le cose. Cosa dovrei ricordare? Che fa Fede è indagato per favoreggiamento della prostituzione. No, veramente è sotto processo. Non è sotto indagato. Processo, va bene. Ma qual è il punto? Lo sanno tutti, è talmente chiaro. Lo sanno tutti, ma poi no, io no. Attenzione, dico che lei, perché lei comunque le sue domande sono fatte in maniera molto apprezzabile, perché lei comunque fa sempre capire con le sue domande un po' la persona quanto è anche poco seria. Però secondo me va detto, ecco, vanno poco anche incensate le frasi come il grande giornalista. Fede non è un grande giornalista, Fede forse lo è stato fino a quando ha fondato Ora Juve o poco dopo, in modo per scherzare, però sicuramente Fede non è un grande giornalista. Vabbè, adesso non ci mettiamo qui a disquisire su Fede giornalista, altrimenti non la finiamo più. Grazie Pasquale. Parenzo, sei vivo oppure sei... Sono qui, ti saluta anche il sindaco di Alessandria. Devo fare un saluto se vuoi al sindaco no, di Alessandria. No, non c'è nessun saluto da ti fare. Il sindaco di Parma... Il risanamento di questo comune che... Oddio mio, ma si può fare... Si può possiamo fare... cominciare a parlare di cose un po' vere. Ma si può vere. Fare la trasmissione alla radio oppure devo sentire queste boiate continuamente? No, si può fare, però ad esempio... Allora, il sindaco... Mi stai zitto! Stai zitto! Il sindaco... Vuoi intervenire alla Zanzara per raccontare la tua storia? No, ma non la faccio intervenire tanto. Il sindaco di Parma Pizzarotti dice: ancora fermi come comune, come azione di governo del comune? È colpa del passato. Sembra come quei politici che loro tanto criticano e che se la prendono con quelli che sono venuti prima. Simone da Roma, buonasera. Poi un ospite amico tuo, Parenzo, un ospite amico tuo, proprio una ciliegina sulla torta, un finale scoppiettante. Simone, dica. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Penso di essere uno dei suoi ascoltatori più giovani, alla tenera età di 25 anni. Bene, sono molto contento. Salve, buonasera e complimenti per la tua. Vabbè, allora andiamo al sodo. Volevo intervenire sull'intervento di Fede che dice che 20.000 euro netti al mese sono pochi perché deve dare i soldi alla moglie e alla figlia. Io sinceramente al giorno d'oggi, in questi giorni, lo trovo veramente scandaloso. Anche il ognuno, fatto che ognuno, ha la sua, ognuno ha il suo modello di vita, ognuno ha il suo stile di vita, ognuno ha il suo tenore di vita. Per Fede 20.000 euro non sono tantissimi perché deve dare i soldi qui, di là, alla moglie, alle figlie, ma eccetera. Ma qual è il fatto? Che secondo me ci fa anche una brutta figura poi con gli ascoltatori, con gli italiani in generale. Cioè le persone oggi 20.000 euro se li sognano. Non so, io ho mio padre, una famiglia di imprenditori, abbiamo una piccola azienda in provincia di Roma, mio padre ancora oggi lavora e perché percepisce altri crediti prende 250 euro di pensione dopo 53 anni di lavoro. E Fede dice che sono pochi i suoi 20.000 euro, mi sembrano, cioè, c'è una sproporzione esagerata secondo me nel nostro paese. Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me e cerca il posto. Francesca da Milano, 800 24 00 24. Francesca, buonasera. Vada. vado. Allora, io chiamavo perché ho ascoltato l'intervento di Fede che mi ha parecchio colpito. Io credo che uno che sta fondando un movimento chiamato Vogliamo Vivere, che dice di ascoltare la gente e dice che l'ascolta quando va in traghetto a Capri. Per carità, c'è tanta gente che vive a Capri, però non è esattamente una tratta usuale. Ritengo che questo fee di 20.000 euro netti mensili più tutti gli altri benefit e le cose che probabilmente riceve anche altrimenti siano abbastanza vergognosi, e io gli consiglierei, visto che vuole stare a contatto con la gente, quello che io consiglio spesso alla gente arrogante: 3 mesi di risaia, poi 3 mesi di miniera, poi 3 mesi a zappare la terra, pagati come vengono pagate queste persone, e poi ci ritroviamo dopo 9 mesi a parlarne. Cioè un po' di miniera, dice lei. Sì, casualmente c'è la questione del Sulcis adesso, ma questo è un set miniera, risaia, zappare la terra, che io consiglio spesso a gente che in realtà non è mai a contatto con le persone. Ci tengo a precisare che io faccio parte della classe media e sono giornalista, quindi nemmeno faccio parte di quelli che zappano la terra abitualmente, però credo che cioè non fa un po' parte di umiltà ci voglia. Non fa parte di quelli che zappano la terra? No, io in questo momento no, ho fatto anche quello perché io non ho paura di fare certe cose, ma soprattutto io ritengo che uno che prenda 20.000 euro al mese netti, in un momento in cui la gente fa fatica ad averne 500, buona grazia, non può mettere in piedi un movimento dicendo che ascolta le persone, e dovrebbe avere un po' di pudore. Grazie Francesca. Anna da Torino, buonasera. Parenzo, ci sei o no? Diavolo d'un Parenzo, che fine hai fatto? Sono qua, sto facendo delle... Io però, allora, non vuoi sentire storie di vita, non vuoi che ti racconti la storia del precariato, non vuoi che parli del Sulcis. Ripassami Grassano un attimo. Dei gossip che esce in questi giorni creando macchina del fango nei tuoi confronti, ma che vuoi da me? Quello che posso fare è passarti il capo del service, sostanzialmente. Dammi Grassano di nuovo, dammi Grassano di nuovo. Basta fare adesso, tra l'altro, il capo del service. Dammi Grassano, ma la gente se ne frega di quello che stai facendo. Dammi di nuovo Grassano. Deve sapere. Grassano, dove è andato Grassano? Eccolo qua, ti vuole ancora la zanzara. Ti passo un attimo Cruciale così diventa. Eccomi presente agli ordini. Maurizio, che si può fare per aiutare un deputato che si definisce povero perché la moglie gli prende i 2/3 dello stipendio che possiamo fare? Non lo so, sponsorizza una colletta generale. Addirittura? Pure te ci hai messo del tuo, però condannato per truffa, hai fatto un casino pazzesco pure tu. Lo so, guarda, le ho fatte tutte, però sono stato condannato per truffa, però sono innocente. Vabbè, e questo lo dicono tutti, però capisco. Io spero, dato che non è ancora definitiva la condanna, spero di trovare poi dopo dei giudici che leggano con attenzione le carte. Scusami Maurizio, ma per darti una mano concretamente, cioè per farti dire, alla fine tu che sai fare nella vita? Cioè se non fai la politica che fai? Io? Nella vita ho sempre lavorato. No, quello è vero, però adesso sei un po' fuori dal giro, no? Alla fine se non fai la politica che fai? Non lo so, vediamo, qualche cosa mi inventerò. Al limite posso provare ad andare a Zelig. Dicono che come comico sono bravo. Beh, insomma, no, come comico magari no, devi affinare qualche cosa, però ce la potresti fare, sì, ce la potresti fare. Potresti fare... Beh, però non ti basta, non ti basta. Vabbè, ma sai, io alla fine sono uno che si accontenta, ma usa sempre le risorse che ha. Rischi veramente di morire di fame? Ma adesso morire di fame, magari questo è un po' eccessivo. Però diciamo che il futuro è sempre incerto. È incerto per tutti. Sì, ma come sta vivendo questo periodo da qui alla fine della legislatura? Come una lunga agonia, come un'angoscia? Come lo sta vivendo? No, ma che agonia? Io lo sto vivendo con serenità e tranquillità. Con serenità e tranquillità. Beh, insomma, si avvicina alla fine. Si avvicina alla fine. È vero, potrebbe avvicinarsi un nuovo inizio. Un nuovo inizio. Ma l'errore più grande che hai fatto qual è stato? Per esempio a livello proprio personale, familiare. L'errore più grande che ho fatto, sai qual è stato? Qual è stato? È stato quello di prendere di punta alcuni giornalisti della stampa. Perché? Quando ero presidente del consiglio comunale. Perché poi la stampa si è scatenata contro di te. Si è scatenata. Mi hanno fatto il metodo boffo più fini messi insieme. Questo è stato il mio errore più grande. E invece purtroppo, cioè, io, tu mi conosci, oramai io sono fatto così, sono uno irruento. Quando una persona dice delle stupidaggini, io glielo dico sulla faccia, gli dico: ma sei un idiota. Cioè, ma nella vita invece che errori hai fatto nella vita? Nella vita ne ho fatti tanti di errori. Troppo, questa cosa delle donne è un errore pure, troppo. Ne ho fatti tanti di errori, ma nella vita ne facciamo tutti di errori. Donne, troppe donne. Ma adesso ho ridotto, Sì, hai ridotto? Sì, ho ridotto. Hai ridotto. Ho tirato i remi in barca, basta. Ma io non ho capito, hai tirato i remi in barca, cioè c'è una fidanzata oppure sei sempre single? No, tirati remi in barca per ora, sono in attesa. Sei in attesa, cioè sì. Niente più giro di valzer. Al limite potrei andare in un monastero. Vale, dai, adesso su, non esagerare, dai. Non ti ci vedo. Ma magari per qualche anno, non per sempre, così per purificarmi lo spirito e l'intelletto. Ah, potresti andare in un convento per un po' per liberarti da questi demoni, dici, no? No, demoni, poi io non so se sono demoni o se sono cose piacevoli. Però insomma, potresti andare a purificarti, e sarebbe venuto il momento, dopo tanto peccato, diciamo, tra virgolette, dopo tanti vizi, il momento di purificarsi. No, vizi no, non sono vizi questi, delle vizi, donne, vizi, hai voglia. Senso positivo, dico, in senso positivo. Ah sì, diciamo, vabbè. Sono piacevoli passatempi. Va bene, ti abbraccio, a presto. Ciao, Riccardo da Alessandria, anzi sì, Riccardo da Alessandria, sì, Riccardo. Buonasera Cruciani. Vada. Volevo semplicemente dirle che secondo me Parenzo è qui perché stasera ad Alessandria abbiamo il Capodanno Alessandrino, che è una specie di notte bianca, sì, dove in onore, quest'anno è dedicato in onore al cappello, e quindi sì, in onore al cappello, perché Alessandria, come lei sa, è capitale del cappello, sì, col Borsalino. Volevo darle così un accenno, perché Parenzo è qua stasera, perché è a divertirsi e non a cercare... No, ma lavora anche per la 7 tra poco, non si preoccupi, però sicuramente sì, dopo si divertirà. Riccardo, grazie. Anna da Torino, veloce, Anna. Buonasera, velocissima. Paralimpiadi Torino 2006, sì. Italia-Svezia di sledge hockey. Sì. I primi 30 secondi, atleti gravemente menomati, ti senti come pubblico fortunatissimo. Dici, cazzo, io sì che sono a posto. Dopo i primi 30 secondi, divertimento puro, gente che gioca, atleti, divertimento che nemmeno le partite normali a cui ho assistito, e veramente si esce di lì increduli e ci si sente veramente noi, i paralimpici di tutti i giorni. Le assicuro, emozioni sportive allo stato puro. E c'è un detto che Parenzo le può interpretare. Qual è? Prima de versere a bocca, padarghe aria a esensive, pensarghe due volte. Questo prima di parlare, prima di parlare, pensarci due volte. Sì, con questo per non dare aria alle gengive. Sì. Qualcuno ci scrive, aboliamo. Qualcuno ci scrive, aboliamo Paolo Villaggio, fa tristezza. Io dico semplicemente questo: Villaggio ha espresso la sua opinione sulle Paralimpiadi. Io non le condivido, naturalmente, a me non fanno per niente tristezza. Non le vedo perché la competizione sportiva, vedo altre competizioni sportive. E magari quell'emozione che ci ha detto, di cui ci ha parlato Anna, mi manca. Però devo confessare, perché non voglio essere ipocrita, che io non le vedo, perché la competizione sportiva è un'altra, ma va benissimo. Non condivido però nemmeno l'opinione di Villaggio, che dice non si possono vedere quelli che giocano a pallacanestro in carrozzella, cioè non, è un'altra cosa rispetto alla competizione sportiva, su questo non c'è dubbio. Però insomma, tristezza no, almeno a me tristezza non mi fanno. Grazie, dobbiamo chiudere. Gianni da Verona, Andrea da Milano, Ivo da Monza, ci risentiamo se volete lunedì. La Zanzara torna a un orario normale, all'orario normale, quello delle 18:30. Ciao. No, ti prego, sei in gamba, dai, ti servi di Parenzo come scemo del villaggio. Vabbè, quello è cretino, giustamente. Che bello, finalmente un cretino che non si vergogna di esserlo, un folle, un pazzo. Voi